Siamo sicuri che non c'è stato mai un tradimento, caro Razzi? Beh, no, diciamo la verità, una volta solo, una volta. Ma di pensieri, sai, se ne fa tanto, anzi, perché ti vedi una, dici, minchia, quanto è buona quella, però, insomma, in realtà non è che possiamo, siamo uomini, non siamo mica... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Matti, siamo tutti matti. Urliamoci, insultiamo da nevrosi. Siamo affetti, spariamo dei sorrisi. Degli alibi perfetti. Dati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori di misura. In fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura. Fragili ed inetti, bugiardi trasformisti. Regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti. Beh, cari ascoltatori, andrò un po' controcorrente questa sera, come al solito, eh? Poi giudicate voi. Io dico che annullare le elezioni in una regione importante come il Piemonte, ma potrebbe valere anche per il Molise, potrebbe valere anche per piccoli centri, dopo quasi quattro anni di governo, bello, brutto, so che i leghisti vi fanno schifo, so che un presidente leghista magari la maggior parte di voi fa orrore, no? Poi c'è la storia delle mutande di Cota che fa ancora più orrore, non solo per il colore delle mutande, anche per quello che ci potrebbe essere dentro le mutande di Cota, ma questa è un'altra storia. Vi potrebbe fare orrore il signor Cota, perché porta nel taschino la bandiera verde, no? Ma a me non me ne frega niente che sia Cota, che non sia Cota. Quelli che esultano perché adesso arriva Chiamparino, arrivano i nostri in Piemonte, perché ovviamente non ci sarà più un presidente leghista, mi fanno ancora più schifo. A me mi fa schifo invece il paese, un paese dopo quasi quattro anni di governo, un TAR, un Consiglio di Stato, un diavolo di tribunale maledetto amministrativo che dovrebbero essere abbattuti. Dica che bisogna andare a votare. Bisogna andare a votare perché una lista, per carità, hanno fatto delle porcherie inenarrabili, eh. Le liste per i pensionati. Come si fa solamente a pensare di presentare una lista che si chiama i pensionati per Cota? Basta guardarli uno a uno, questi qua sono dei... Vabbè, ma non è questo il punto, non è questo il punto. Non si possono annullare le elezioni dopo quattro anni. Metteteci un tempo massimo, sei mesi. O decidete entro sei mesi, oppure andate a fare in culo. E dai, su, dove sei? Dove sei, Parenzo? No, beh, questa sua autorevole filippica contro il TAR può anche starci. Perché, sì, quattro anni è un tempo enorme. E dopodiché tu sei allergico perché tu sei la zanzara, tu sei il politicamente scorretto. Ma le sentenze, caro il mio amico di Cota, vanno rispettate. Ma io non sono amico di Cota, non me ne caro frega niente. Caro il mio amico che ha delle mutande, dei boxer ancora peggiori di quello, no, del... No, veramente, io ho delle mutande, non ho mai portato le mutande verdi, kiwi, no, color kiwi. Le mutande, questo no, ma le mutande ce l'ho, abbi pazienza. Ma non è questo il punto, TAR che tu vorresti abolire. Vabbè, tu hai detto la solita banalità, le regole, le sentenze, stronzate. Beh, no, un momento, ma se si beh, un momento, ma qualcuno dovrà qualche organo terzo dovrà decidere. Vabbè, senti Cota, senti hanno Cota. Hanno fatto delle porcherie, eh. Senti Cota. Questa è una vergogna, ma siamo in un paese di matti. Ma uno che dovesse arrivare da fuori e vede una cosa del genere. Ma siamo nel 2014 e le elezioni si sono svolte nel 2010. Gli potrà pure fare schifo sto Cota, gli potrà pure fare orrore sto Cota, ma dice delle cose, mi sembra abbastanza normali, ragionevoli. Ma sì, dice delle cose ragionevoli. No, ma è allucinante che il TAR ci abbia messo 4 anni. Poi, ma non è il TAR, ci sono stati vari ricorsi, gli avvocati, Poi anche Cota sbraca, ovviamente. Non sono amico dei potenti, ho toccato certi interessi. Giù le mani dal Piemonte. Io so che ho toccato diversi interessi facendo il governatore di questa regione, ho fatto delle riforme importanti sulla sanità. Non sono amico dei potenti, non sono dentro un certo sistema di potere, una certa cappa. io i potenti non lo so se ha toccato dei potenti. Certo posso dire una cosa però, caro Parenzo, qui lo dico in maniera chiara, forte. Allora, se al posto di Cotta ci fosse stato un presidente del Partito Democratico, lo voglio dire chiaramente, del Partito Democratico, no, ci fosse stato un presidente del Partito Democratico, non sarebbe successo nulla. Nulla, niente. Che orrore. No, l'orrore lo dico io, l'orrore mi fa il TAR, a me i TAR mi fanno schifo. Sciocchezza. Quando decidono queste cose, perché non ci mettono 3 mesi a controllare le firme di questo giovine là del Movimento Pensionati per Cotta? Ci mettessero 3 mesi, se si superano i 6 mesi non si può più controllare niente, tutto deve essere bruciato. Le schede, tutto, però, Ma non mi interessa che legge bisogna fare, basta con queste cose. E comunque ripeto, se non ci fosse stato Cotta non si sarebbe arrivati fino a questo punto. Ma questa mai. È una stupidaggine. No, è la verità, altro che stupidaggine. Lo sanno tutti, è chiaro che è così, dai, forza. Questi si sono sentiti forti di poter annullare le elezioni e perché allora c'è Cotta, dai. Di complotto, sì. Ma non è complotto, è che è più facile annullare le elezioni così, dai, è ma più che semplice. Vuol dire più facile, perché è Cotta. Vabbè, ti faccio sentire Alfano, signor Alfano. Beh, non è che ho aspettato le 18:37. Questo pure è vero, Alfano. Scusami, perdona. Per noi, ti chiedo umilmente perdono. No, chiedo... mi fai se dice ti faccio sentire Alfano. La gente il venerdì sera, una settimana di lavoro, torna a casa, arriva lui, ti faccio sentire Alfano. Vabbè, sentiamo Alfano, se ci sarà il matrimonio gay vado via a gambe levate. Se propongono il matrimonio gay, ma noi ce ne andiamo un attimo prima, ma a gambe levate, denunciandolo all'opinione pubblica. Non è che abbiamo bisogno di farci su un seminario di studi per arrivare a questa conclusione. Però voglio chiedere rispettosamente ad Alfano, se propongono invece, che ne so, una cosa minore, che fai? Resti lì? Perché magari non propongono proprio il matrimonio, no? A parte che nessuno propone niente qua. Oh, Alfano, siamo l'argine della sinistra, alla sinistra su gay, droga e immigrati. Questa è forte, questa è bella. Siamo l'argine alla sinistra, con cui è alleato peraltro, su gay, droga e immigrati. In questi 13 mesi stiamo al governo per fare scudo a delle cose che la sinistra farebbe se non ci fossimo noi. Quindi basta pensare a matrimoni gay, frontiere libere aperte agli immigrati, adozioni dei bambini da parte delle coppie gay e legalizzazione della cannabis per capire qual è l'universo valoriale e programmatico di una sinistra che non collabori con un pezzo di centrodestra che faccia argine a tutto questo. Quindi... quando Brunetta va da Santoro è sempre spettacolo. Non è che sia andato benissimo Santoro, però chi se ne frega. Mitico Brunetta che per 13 volte ripete la parola "la crisi come la affronti con Renzi?" Senti. E poi c'è questo problema che non si capisce, che stanno rosicchiando la democrazia. Vabbè, Berlusconi controlla, però nel momento in cui Berlusconi esce di scena, chi l'affronta questo? Il direttore del TG4? Chi è che si mette lì? Renzi? Renzi? Ma Renzi qualcosa Renzi? Cerca Renzi? Qualcosa, Renzi? Lo so che vi dà fastidio Renzi? Perché in questo momento Renzi? È il vantaggio. No, ma perché tiri fuori il direttore del TG4? Però se fossimo obiettivi, no? Se io e lei Renzi? Fossimo obiettivi, noi dovremmo Renzi dire con la comunque con uno come Renzi un po' di tifo lo devi fare, un po' Renzi di tifo, con anche la se sono di destra. Renzi con la Leopoldina? Renzi con la Leopoldina? Leopoldina, la Leopoldona, ma volete far pure voi la Leopoldina? Buttale in ridere, Allora con chi la vuole affrontare la crisi? Col direttore del TG4, dice Brunetta, riferendosi, dice Santoro, riferendosi a Toti. Vabbè, che Brunetta ce l'abbia con Renzi da tempo è chiaro, Renzi non ha mai lavorato in vita sua. Il povero Renzi è un signore, lo dico con simpatia, non ha mai lavorato in vita sua. Ha solo fatto politica da democristiano. Adesso è diventato segretario dell'ex PC PDS di SPD. Le pare che questa non sia una follia? Poi se la prende con uno del pubblico, Cosimo. Lei riesce a campare con 800 euro al mese? Io ho campato con 800 euro al mese. Ma dove? Ascolti! Alla sua età ne prendevo anche di meno. Ascolti! Alla sua età anche di meno. Ascolti, se lei ha guadagnato 800 euro al mese, non rubavi i soldi agli italiani come i suoi amici politici. Senta, tutti senta, quanti senta, siete rubando senta, a noi italiani. Senta, l'ho detto tante altre volte, io sono figlio di un venditore ambulante, ho fatto il venditore ambulante, mi sono fatto un culo così nella vita. E infine, perché abbiamo già un ospite pronto, caro Parenzo. Oppure no, dipende dal nuovo litigio tra Vespa e Baudo. Vabbè, becchiamoci pure questo, dai. Qual è la sostanza? Che Vespa non ha invitato, crimine gravissimo, Baudo per i 60 anni, per una puntata che ha fatto di Porta a Porta per i 60 anni della Rai. Tra i due cosa c'è stato? Pare che Baudo abbia sputato a Don Hacattain, uno degli autori di Vespa, durante una puntata dei 150 anni di storia della Rai. Sputato, abbia sputato a Don Hacattain. Lui non smentisce nemmeno, dice sono cose private tra me e Don Hacattain. Baudo affranto, distrutto, questa mattina da Minoli dice Vespa fa un uso privatistico e padronale della TV. Sono soltanto dolorato perché non si può fare un uso privatistico, privato e padronale del mezzo televisivo. Che è quello che consideri fatto da Vespa, mi fate capire. Adesso a Vespa, fallo intervenisto Baudo, dice deve chiedere scusa a Don Hacattain, ma chi se ne frega Don Hacattain, questa è la storia della Rai, 60 anni ci sarà spazio pure per il signor Baudo, no? Fallo intervenire, supera sta diatriba, e che è? Ha sputato a Don Hacattain, e se la vedessero lui e Don Hacattain. È sempre festa, viva! Oh, Alessandro Meluzzi, buonasera! Come andiamo? Buonasera! Caro Alessandro, come stai? Che piacere sentirvi! Allora, la prima... Ciao Meluzzino! Che c'è? Eccomi, cosa volete che... Ciao Meluzzi! Senti, ciao, ma perché ciao, viene sempre fuori ogni tanto questo discorso sulle coppie gay? Tu sei uno dei più feroci sostenitori del matrimonio tradizionale, diciamo, no? Ma io sono feroce per niente, feroce non è un aggettivo che mi si attaglia. Comunque, sono un sostenitore del matrimonio tradizionale, personalmente. Ma poi devo dire, io non ho niente contro il matrimonio gay, sia chiarissimo. Basta soltanto che le cose vengano chiamate col loro nome. Sono un fanatico della chiarezza delle parole, perché come diceva Bertrand Russell, scarsa chiarezza di linguaggio, scarsa chiarezza. Scusa, per te che cosa sono gli omosessuali, tanto per chiarire bene, come li possiamo definire? Sono delle persone. Quello non sei mica Goebbels, diciamo. No, sono delle persone, come dire, che hanno una diversa abilità di tipo riproduttivo, cioè gli eterosessuali fanno l'amore tra di loro e generano dei figli della vita, gli omosessuali no, questa è l'unica differenza. Sai, cosa sono, disabili? No, questo è un altro discorso. Ma disabili non è un termine che amo. In qualche modo diversamente abili, sicuramente. La loro abilità riproduttiva si esplica in modo diverso che negli eterosessuali. E allora, vabbè, questo lo sappiamo. Non si riproducono perché, diciamo, se non si accoppiano... Non si riproducono perché maschio più maschio e femmina più femmina non fa figli. E vabbè, e questo cosa cambia però? Per esempio... No, cambia rispetto al fatto che la parola, intanto, ci interessa poco, ma matrimonio vuol dire dono della maternità. Qua, sulle parole si può parlare. Ma c'è un altro principio, cioè il fatto che gli stati, non parliamo delle religioni, ma gli stati hanno concesso sempre dei privilegi particolari a coloro che si riproducevano, perché la riproduzione non è una cosa che riguarda solo i genitori, ma è un bene dato a tutta l'umanità. Cioè, scusami un attimo, oggi, secondo te si potrebbe arrivare col matrimonio gay alla distruzione dell'umanità? No, assolutamente no. Ho detto soltanto che gli stati danno, per esempio, la pensione di reversibilità alla gente sposata, perché sì, chi fa figli pagherà la pensione di chi prende le pensioni. Questo è una dunque cosa, le coppie omosessuali non facendo figli non possono contribuire alle pensioni, dici tu? No, contribuiscono, e come? Alla loro pensione, alla pensione, pagano i contributi. Ma dico che fare figli è un dono che non riguarda solo i genitori, è un dono al futuro dell'umanità. Questo dico soltanto, ma questa è una cosa incontrovertibile che sta nelle cose, non è mica una mia opinione. Vabbè, però tu quando definisci in sostanza dei disabili della procreazione, cioè delle persone... Ho detto hanno una diversa abilità, come uno, come dire, per esempio non vede ma vede, come dire, con il tatto, capisce? Quindi come uno che non vede ma vede con il tatto, per esempio, che usa, legge con i caratteri Braille, no? Quindi uno ha una diversa abilità nella lettura. Vabbè, no, è uno che legge normalmente, uno che legge con i caratteri Braille è un po' un minorato, scusa. No, prova a dire questo ai ciechi. Prova a dire ai ciechi. Ma non minorato, ma non minorato in senso negativo, però ha delle... Un cieco non è un minorato. Hanno qualcosa in meno, dai. Hanno un udito molto più sviluppato, per esempio un tatto molto più sviluppato. Io sono andato a fare una cena al buio, non in un club gay, ma in un club di ciechi, e ho avuto delle esperienze straordinarie, perché imparare a sentire, per esempio, sì, una cena, gli odori, nel buio totale, è un'esperienza straordinaria, pazzesca. E quindi voglio dire, ogni essere umano è diverso. Vabbè, questo non c'è dubbio, che sia un essere umano diverso. Però tu dici, per esempio, il matrimonio no, perché questa storia delle pensioni è importante. No, non c'entrano le pensioni. C'entra chiamare le cose, poi per, voglio dire, io sono perché le persone abbiano tutti i diritti, perché uno. Poi voglio aggiungere un'altra cosa. Se io voglio stare con una persona e voglio dargli la reversibilità della pensione o dare i vantaggi, un principio che io riaffermerei è che non voglio assolutamente accertare che tipo di legami sessuali ci sono tra di loro. Per esempio, io e te decidessimo di andare a vivere insieme e io non fossi sposato, voglio lasciarti la reversibilità della mia pensione. Non voglio che si accerti che tipo di rapporto, possiamo essere anche soltanto amici. Sì. Non c'è nessuna ragione, come dire, che si debba accertare se abbiamo delle transizioni sessuali tra di noi. Questo è il punto. Quindi io sono per le persone siano libere di vivere con chi vogliono. Siano libere di. Però le unioni civili no. Come no? Chi ha detto di no? Però non il matrimonio, non il matrimonio. Traffico, no, torniamo subito. Non userei mai la parola matrimonio perché è un abuso di parola, perché matrimonio vuol dire dono della maternità. È la zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Io ancora non mi capacito, caro David, che in Francia, si è addirittura intervenuto il Consiglio di Stato anche lì, certo, a proibire gli spettacoli di un comico, di un uomo di, di teatro, uno che è apertamente antisemita e ma fa degli spettacoli. Ma che cosa? Qual è il problema? Di un razzista, di uno non di uno che è stato anche candidato. Ma lo mettessero in carcere? Ma che c'entra che è stato candidato con le penne? Le penne che è presente al Parlamento Europeo, che bisogna vietare gli spettacoli. Razzista. Ma e allora che vuol dire? Lo mettessero in galera? Ma non fa ridere, è un razzista. Ma che me ne frega, farà ridere a qualcuno? Ma odio, lavora sugli stereotipi. Andava bene negli anni 30. Ma cosa vuol dire? Lì. Ma lascialo scegliere a chi va a sentire i suoi spettacoli, se ci deve essere o no. Lascialo scegliere a quelli. Beh, io penso che chi semina odio e lo proclama nei teatri. Ma tu vuoi un mondo tutto uguale, vuoi un mondo. Mondo, no. Sì, tutto plasmato allo stesso modo. Ma bisogna cosa? Dare spazio anche a questi violenti, a questi estremisti, a parte che non è violento per niente, a persone che la pensano in maniera diversa. Nella propaganda e nelle parole. Ma mica dice che bisogna uccidere gli ebrei, mica dice che bisogna bruciare Israele. Ci mancherebbe altro. Pronuncia delle parole sull'Olocausto, dice la sua. Dice la sua sull'Olocausto. Delle cose. Le canzoni contro la Shoah. Insomma, mi pare che non ci ma sia che vuol dire? Ma te quando si toccano questi argomenti diventi improvvisamente chiuso. Ma anche sulla questione dei rom. Me lo dico anche. Ma che vuol dire? Ma come si fa a proibire uno spettacolo? Come si fa a proibire uno spettacolo? Se uno fa uno spettacolo razzista, ma chi, ma chi lo decide che è razzista? Lo decidi tu? Ma non è che lo decidi tu. Dai, su, è una vergogna. Ma lo decidi tu, né l'amico Meluzzi. È una vergogna, ecco, Meluzzi la penserà come me. Io sono d'accordo con questa questione. Io sono, come dire, contro i reati d'opinione in tutte le loro forme e in tutte le loro declinazioni. Credo che gli esseri umani siano tutti sufficientemente maturi per poter decidere che opinione farci di qualsiasi cosa e credo che non ci sia pensiero che sia meritevole di essere censurato mai. Questo è un principio. Ma è chiaro, ma se poi questo commette dei reati, che sono i reati sono reati, l'istigazione all'omicidio è un reato, per esempio. L'istigazione al genocidio è un reato. Certo. Ma per esempio condannare penalmente il negazionismo, cioè dire che è un reato, pensare che la storia sia andata diversamente da come scrivono i libri di storia, non potrà mai diventare per un esempio reato. Meluzzi sostiene che l'adozione da parte dei gay è qualcosa di aberrante, giusto? Ma io non userei mai l'aggettivo aberrante. L'hai detto aberrante una volta. Aberrante non lo userei. Userei un altro termine. Direi che è una cosa, come dire, che non augurerei a, come dire, a un bambino. Nel senso che per un bambino è bello sentire l'odore del maschio caratteristico, del sudore, delle sue ascelle, dei suoi genitali, e sentire l'odore della mamma, delle tette, del seno. Quindi è bello per un bambino poter sperimentare i ferormoni maschili. Vabbè, ma anche se tu usassi la parola aberrante, come hai usato una volta, a proposito dell'adozione gay, se ci fosse in Italia un certo tipo di legge sull'omofobia, potresti essere perseguito, per esempio. Ma io non userei mai questa parola. Se l'ho usata, chiedo scusa a chi l'ha sentita, perché non userei l'espressione. Dico soltanto che è una cosa menomante, perché è bello poter sentire l'odore di una pelle maschile e l'odore di una pelle femminile. Questo adesso non è quello il punto. E sfido chiunque a dimostrare questo. Alessandro, però, siccome ci sono molti più coppie che chiedono di adottare bambini di quanti bambini adottabili ci siano, non capisco perché non cominciare a usare i corpi maschili, i corpi femminili, le anime maschili, le anime femminili per accogliere i bambini. Poi voglio dire, se le persone dello stesso sesso hanno questo desiderio assoluto di fare dei figli, li facciano. Sì, però, no, ho capito, però voglio dire, non è che un bambino non può crescere tranquillamente, no, all'interno. Non lo so, su questo non ci sono dei dati scientifici adeguati per dare una risposta. Io dico soltanto che se fossi stato adottato avrei voluto avere una mamma e un papà, sicuramente. Come credo anche tu sia stato contento di avere una mamma o un papà. Ma io non la faccio nemmeno questa considerazione. Sì, certo che sono contento, però non e è allora, che... Non me li abbiamo avuti, abbiamo avuto la fortuna di averli per natura. Pensa che invece non ha avuto questa fortuna, perché negargliela? Ma lui, ti sei mai fatto una canna? No, assolutamente no. E questa... No, ma non per ragioni ideologiche, sono talmente fuori di testa che avrei avuto paura, come dire, di avere una brutta esperienza. Magari ti potrebbe tranquillizzare, tu sei contrarissimo a questa storia delle legalizzazioni. Ma sì, perché ne ho viste troppe con tetraidrocannabinolo. Devo dire che faccio lo psichiatra da 35 anni, in questi 35 anni ho visto tanti di quei ragazzi che sono andati fuori di testa con le canne, da pensare che se uno è già un po', come dire, predisposto, mettersi in questa avventura col tetraidrocannabinolo può essere più pericoloso di quello che non si crede. Dai, su, ma dipende. Ma neanche quando eri di sinistra ti facevi una canna? No, ma assolutamente no. Anzi, a parte che poi in un certo mondo della sinistra, quello in cui venivo io, che era quello prima del Manifesto, poi quello della FIGC, le canne venivano considerate qualche cosa di aberrante, perché è il niño che noi studiano e poi è rivoluzionario, come diceva Fidel Castro, e studio perché me gusta studiare. E quindi eravamo tutti abbastanza bacchettoni nella FIGC, quindi è altro che canna. Sì, nella FIGC però. Certo, io nella FIGC mica ero in avanguardia, mica ero in autonomia operaria. Lì a voglia canne. Ma lì non so, più che canne c'erano le canne dei fucili, veramente, in autonomia operaria. Comunque, insomma, sempre di canne si tratta, ancora più pericolose. Parenzo, che fine hai fatto? No, sono qui, mi ho ricordato questo passato straordinario di Meluzzi. Mi piace questo passato di Meluzzi dal PC, poi socialista, Forza Italia, socialista, poi Don Gelmini. Ma poi nel PC negli anni eroici, quando c'era D'Alema segretario della PC e segretario della mia federazione era Piero Fassino. Senti, una specie di uno psicanalista, sì. Forse un tuo collega, sì. Recalcati, l'altro giorno da Gruber ha detto che la vera perversione di Berlusconi sotto il profilo sessuale non è il lettore di Putin, ma è il mausoleo che Berlusconi ha preparato. Il mausoleo di Cascella. Sì, il mausoleo di Cascella. Un Viagra di marmo che servirà a dare un senso di eternità al suo corpo. Io ho detto che sono delle stronzate pazzesche. Un corpo bionico, sì, che Berlusconi ha cercato di preservare dal tempo. Ma no, Berlusconi, come dire, diventa una specie di punching ball su cui chiunque può esercitarci dicendo qualsiasi cosa dannunziana come questa. Ma tu che esplori sempre le cose delle donne, qualche tic, sì, però dimmi, qualche tic sessuale ce l'ha Berlusconi, o no? Beh, insomma, è un uomo di una certa età, molto arzillo, a cui le donne continuano a piacere eroicamente. Devo dire che se a tutti gli uomini di quell'età le donne piacessero così, le donne sarebbero più contente e ci sarebbe una speranza anche per i vecchietti. Quindi, cioè, da questo punto di vista, mi sembra un bel messaggio anche dal punto di vista della psicogeriatria. Cioè, non ho capito, Berlusconi dà un bel messaggio, cioè, da questo punto di vista, perché? Rende, come dire, molti anziani ben speranti sulla possibilità di avere una vita sessuale attiva e felice. Di solito gli uomini a quell'età tirano i remi in barca, mentre invece lui, da questo punto di vista, diciamo che esempio. Lodevole, si fa un po' aiutare, pare si faccia un po' aiutare, però vabbè, insomma, aiutini, immagino, poi comunque, e queste, guarda, cose bisognerebbe poterle vedere da vicino. Io sono un gran tifoso dell'Uruguay, non so perché, sì, dell'Uruguay. Io non mi hanno liberalizzato. Non mi sono mai fatto una canna in vita, le hanno legalizzato, è dello Stato, io non mi sono mai fatto una canna in vita mia, però adoro questa cosa qua, adoro il fatto che lo Stato possa vendere le canne. Ma lo Stato può vendere tutto quello che vuole, vende anche di peggio. Appunto! Il problema, dai, che queste medicine qua sono delle false soluzioni, ti spiego perché. Perché pensare di combattere il narcotraffico legalizzando le canne è una sciocchezza, perché il narcotraffico sposta immediatamente... Si riproduce ancora, diciamo. Sposta immediatamente la distribuzione su altre sostanze più pericolose, la cocaina, l'eroina, il crack. Allora tu cosa fai? Insegui il mercato liberalizzando anche quelle per combattere i profitti ancora più alti, e questa corsa agli armamenti, certo, alla fine è devastante. Alla fine cosa fa? Lo Stato distribuisce cocaina, eroina, crack, di cui basta farsi una dose per avere il cervello bucato. No, diventa assolutamente una fuga dalla realtà. Questo purtroppo, le ricette liberalizzatrici comprovatamente non diminuiscono il consumo. Beh, tanto quelle altre sicuramente hanno fallito. Ciao, guarda, grazie. Ciao. Amico mio, non ci potrai credere. Senti cosa si inventano a Napoli, no? Aspetta un secondo. Che c'è? Porta dello champagne. Ma come lo champagne? Pronto. Ancora con sto champagne. Pronto. Nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì. Ma che c'entra lo champagne adesso? Cosa no, c'entra? No, cosa ho detto? Perché eravamo in onda? Sì, eravamo in onda, eravamo. Ah, era un bicchiere d'acqua, grazie. Beh, scusa, che cambi, siccome stai in onda dici che c'è un bicchiere d'acqua invece dello champagne. No, ma che poi fai due valutazioni pauperistiche. Sì, poi, sì. Sì, caro? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? A proposito che hai messo Mughini, ma Mughini vuol dare il suo cognome al suo cane? No, David non cercava di fare lo stupido, è uno stupido. Ah, perché tu dici c'è gente che vuole dare il cognome della famiglia al cane. È una faccenda che dovremmo indagare, che vuole dare il proprio cognome al cane, rendendo il cane parte dello stato di famiglia. Vabbè, ma siamo alla follia, eh? Siamo alla magari follia. Mughini è tra questi, però. Magari ha dato il nome Mughini a cosa? Com'è che si chiama? Ma questo voglio capire, voglio chiamarlo per capirlo. Allora, ti dicevo che a Napoli, sì, con tutti i problemi che ci sono, il comune ha deciso di fare una mappatura della cacca dei cani. Vabbè. Ti giuro, vuole andare a vedere nel DNA. Come direte? The Magistris, why not? Ma come why not? Ma come why not? Ma vabbè, non mi pare un problema così grande, diciamo. Senti, il vice sindaco è molto serio invece. Ma come non mi pare un problema serio? È come la questione del traffico a Palermo nel film di Benigni, scusami, abbi pazienza. Sì, a Napoli uno spende dei quattrini per fare le analisi delle cacche dei cani. Le analisi delle cacche dei cani, amici miei! Il vice sindaco Sodano, dici? Sentiamo. Siccome c'è comunque un tema di imbrattamento delle zone canine, soprattutto in alcuni quartieri della città, con conseguenze non solo di immagine, di decoro urbano, che comunque è un tema su cui bisogna lavorare, ma c'è anche un tema di possibili problemi per l'uomo e altri animali e della salute pubblica, quindi è un tema assolutamente importante. Sì, ma sarà anche importante però l'analisi delle eiezioni canine per il decoro urbano. Ma una volta che trovano, che ne so, cosa possono trovare nella cacca dei cani? Che mangiano male, che cosa? Che bevono l'acqua di Napoli inquinata? Che cosa? Cioè, cosa possono trovare? Che orrore! Bah. Beh, riconosci anche, abbiamo creato qualche risata, però andiamo avanti. Quello che sicuramente, insomma, creerà ilarità, come spesso avviene, perché c'è qualche giornale stamattina, con tutti i problemi di Napoli, pensate dai cani, però questo... Come mi rifiuto di pensare che finché una città non raggiunge la normalità non possa anche provare a innovare o a fare cose di qualità. Andiamo avanti, ecco, nonostante le polemiche. Ma non è che sono polemiche, non c'è nessuna polemica, ci mettiamo tutti a ridere, caro Sodano. Dai, l'esame del DNA sulla cacca dei cani a Napoli. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il TAR annulla l'elezione di Cota alle regionali in Piemonte, illegittima una lista a lui collegata, la Lega attacco alla democrazia, Chiamperino pronto a candidarmi, Letta, io e Renzi insieme aiuteremo il paese, stamattina l'incontro a Palazzo Chigi, patto di coalizione entro gennaio, al TG3 il ministro Dario Franceschini. Ma è la legge elettorale il vero nodo, Renzi vuole trattare con tutti, Letta a partire dalla maggioranza, Berlusconi, spero di essere capolista alle europee. Tasi, detrazioni e minimu, sono chiare le scadenze, ma è ancora caos sulle cifre da pagare che varieranno a seconda delle decisioni dei comuni. A giorni la decisione del governo indiano sull'accusa ai due marò italiani, secondo la legge antipirateria, potrebbero rischiare la pena di morte. A 4 anni dalla rivolta di Rosarno, oltre 1000 braccianti vivono ancora nella tendopoli di San Ferdinando, casi di scabbia e tubercolosi. I figli potranno assumere il cognome della madre se c'è l'accordo tra i genitori, lo prevede un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri. Ciao ragazzi, ciao, vi voglio bene, ciao direttore. Berlusconi dice di che spera di essere capolista in tutte le regioni alle europee di maggio. Ma non può. Spera di avere una sospensiva, dice. Io spero. Che speri tu nella vita? Ma si è chiuso, ma voglio dire, una sorta, perché bisogna sempre fare statuti speciali, leggi speciali, sospensive. Ma che speri tu? Che speri tu? So, nella vita che speri? Come Berlusconi capolista in tutte le regioni, lui spera di essere ma capolista. Ma che me ne frega? Ma cosa me ne frega? Me può comunque comandare anche senza andare in Europa, dai, ma che pagliacciata è? Adesso ma no, ma lui è talmente ossessionato da questa cosa che quando accoglie le persone a Palazzo Grazioli, tiene sempre i due tesserini della Camera e del Senato davanti a sé, tipo reliquie, no? Vabbè, tesserino della Camera e il tesserino del Senato. Comunque la cosa più bella è che mi voglio assolutamente comprare quel casco che ho visto oggi, eh. Hai visto che casa? Tu non lo sai perché i motorini non li guidi, non guidi manco no, la macchina. No, guido il motorino, certo. Ah sì, è vero, male ma lo guidi. Allora, c'è un casco con la testa di Berlusconi, ti sì, giuro. Sì, l'ho visto. Beh, è strepitoso, eh. Non so è se. Secondo me non so. Io credo che non esista, eh. È oggettivamente. Però divertente. Se è all'ascolto il produttore di quel casco, faccio un'eccezione. Non faccio mai marchette, faccio un'eccezione. Il casco. Se è vero che esiste un produttore che ha fatto un casco con la testa di Berlusconi mozzata, naturalmente, a livello degli occhi e della bocca, con la testa, con la pelata di Berlusca, provvista però di capelli, eh. Beh, me lo consegni qui, Monterosa 91 2149. Ma caschetto. Come? Ma ti fai arrivare le mozzarelle? Ti fai arrivare il casco? Mi faccio arrivare il casco con la testa di Berlusconi. Ma ecco come qua. Mozzarelle? È stupendo. Il casco. Mozzarelle adesso non è. Adesso chiamerà un macellaio, ti fai mandare la carne. In arrivo il casco che raffigura la capoccia di Berlusconi. Lo voglio assolutamente. È una delle cose di culto più. Diventerà un pezzo da collezione meraviglioso. Io invece voglio il casco con la faccia di Fassino. Insomma, come diciamo a Milano, che pensi di me? No, non credo che lo produci tu, Berlusca, il casco, Non siete seri per niente. Ernesto da Roma. Buonasera, Cruciani. Caro Ernesto, dimmi. Dunque, niente, io volevo dirle che sono molto sconcertato dal fatto che sì. Il governo stia per cadere per la questione dei matrimoni gay, delle adozioni gay. Ma per questi invertiti, depravati, sporcaccioni, con tutti i problemi che abbiamo, insomma, ma ci rendiamo conto, è una cosa assurda. Ma che cosa? Che per colpa di questi depravati, invertiti, sporcaccioni, debba cadere un governo. Ma che cade un governo? Lei ancora pensa che cade un governo perché Alfano minaccia di farlo cadere se quelli presentano il matrimonio gay? E poi che c'entra sporcaccioni, depravati? Ma non si vergogna? Ma io non mi vergogno affatto, perché guardi, secondo me, se ne vogliamo parlare seriamente, gli omosessuali si dividono in due grosse categorie. Quelli che ci nascono, e questi hanno tutta la mia comprensione, compassione e se posso vi aiuto. Ma quelli che ci diventano sono dei depravati, degli sporcaccioni, gente da evitare. Ma perché? Scusi, non ho capito. Ma quelli che ci diventano è per vizio, Cruciani. Quelli che ci nascono io li comprendo e anzi, se posso li aiuto. Ma perché? Mettiamo che sia così come dice lei, ma qual è il problema del vizio? Perché non si possono avere vizi? Ma quel genere di vizio è una cosa schifosa, Cruciani, andare con un altro uomo e perché? O andare due donne è una cosa. Ma c'è chi piace prenderlo in culo, qual è il problema? Ma allora non parli di matrimonio, di adozioni, parli di voler fare delle. Scusi, a lei delle piace sodomie. A lei piace la sodomia? No. La fa qualche buono, l'ha mai fatto in vita sua? No, non ci penso proprio. Quanti anni ha, scusi? 67. Vabbè, si è perso qualcosa nella vita, glielo dico subito. È una cosa assolutamente insopportabile, guarda. È contro natura. Sì, vabbè. È contro natura, sì. Io dico per il futuro dei vostri figli e dei miei nipoti, anziché perdere tempo appresso a queste sciocchezze, pensassero ad abbassare le tasse, far ripartire i consumi e andare verso la crisi. Vabbè, ma le due cose. Stiamo impazzendo. Ma veramente stiamo impazzendo. Io credo che cada il governo. Guardi che su queste cose Alfano lo fa cadere perché mira a prendere i voti della Chiesa, dei cattolici e dei bigotti. Ha capito perché cade? Ma non cade per questo. Vanni da Pesaro, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io vi ascolto spesso e anche questa sera si è arrivati a parlare degli omosessuali, cioè mi sembra assolutamente assurda questa cosa, ma comunque visto che siamo in tema volevo dire come la penso. sicuramente è da elogiare, sottolineo elogiare il signore che qualche mese fa disse che la specie umana va preservata e bisogna che tutti si adoperino affinché questa venga preservata. Cioè basta, io penso che sia assolutamente assurdo, cioè se fosse per me, se dipendesse da me, tutti gli omosessuali li prenderei, li caccerei dentro un'astronave e li manderei su Marte. Ma chi? Questo, agli omosessuali. Perché? Che hanno fatto? Niente, assolutamente niente, però come ha detto il signore che mi ha preceduto, siamo sicuramente di fronte a due situazioni probabilmente diverse tra chi ci diviene e chi ci nasce. Sicuramente chi nasce sì. ha bisogno di una comprensione, ha bisogno comprensione, probabilmente sì, certo. di un aiuto, ma chi ci diviene... quello è grave, quello è molto grave. Assolutamente. Chi diventa... magari in quell'aereo, sì. in quell'astronave, io se fosse per me ci caricherei anche a lei a Parenzo. Bene, Parenzo, andiamo con i froci su Marte, come dice Vanni da Pesaro, con un gruppo di omosessuali, tutti insieme su Marte. Vanni, amico mio, ma dove è nato lei? Dove cresce? Con che idee? Ma guardi, siete secondo me voi noi. Che state travisando, state sovvertendo le regole della natura. Sì. Stiamo sovvertendo le regole della natura. Allora, se vogliamo intavolare il discorso nel sì. dare dei diritti civili a delle persone dello stesso sesso sì. che durante una vita stanno insieme per esigenze sì. di reversibilità, di pensione e quant'altro, fino a questo punto sì. eventualmente ci si può anche, se fosse per me, intavolare un discorso. Invece, per quanto riguarda l'adozione dei bambini e i matrimoni, stiamo perdendo tempo. Assolutamente. Vanni. Stiamo perdendo tempo. Grazie. Viva i froci! Viva i froci! Well, now, little mosquito, there must be. No, guardi, se la tenga lei l'omosessualità, io non ne ho alcuna né simpatia né antipatia. Non me ne frega proprio niente. L'importante è che non mi stiano intorno. Professore. Marco da Gorizia, buonasera Marco. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi. Nato e vissuto 20 anni in Francia, madrelingua francese, per cui vedo i giornali francesi, sì, allora? e sono rimasto veramente di merda di sto problema di Diodonè, perché in effetti in Francia ci sono le barzellette, le vignette su Maometto, si ride di tutto in Francia ed è giusto così. Allora qualcuno deve spiegarmi perché non si può toccare tutta la Shoah, tutto quello che è il mondo ebraico, eccetera. Perché tra l'altro in Francia c'è una diatriba, nel senso che fanno tante barzellette battute sugli ebrei, però le possono fare solo gli ebrei. No, chiedo scusa, guardi. No, ma il punto non è questo. Ma non è questo. Io chiedo a Parenzo. Chi ha chiesto l'intervento è stato il presidente francese, che non è sicuramente ebreo. È stato il ministro Valls, non è stato il presidente francese. In effetti il ministro Valls adesso passerà dei bei problemi, perché gli si è ritorto contro. Ha iniziato con una cosa che poteva sembrare giusta, ma adesso l'opinione pubblica vuole la pelle, vuole proprio far fuori il ministro Valls, perché ha esagerato. È una vergogna quello che è successo in Francia. Libertà per Diodonè, libertà di spettacolo, libertà di spettacolo, libertà. Libertà di spettacolo, libertà Diodonè di spettacolo. Diodonè è un comico, se fa ridere deve fare il comico. Basta con queste storie, critica l'olocausto, è contro l'olocausto, chi se ne frega, dice delle stupidaggini, chi se ne frega. Lasciamolo parlare, poi criticalo, ma lo critico anch'io, per carità, dice delle cose orripilanti, ma non per questo gli voglio vietare di fare gli spettacoli. Ma è un comico? Ma non mi interessa cos'è un comico o no, anche se fosse un politico, sarebbe la stessa cosa. Ma è un comico, in Italia siamo un paese in cui non si può fare... Avete visto le vignette su Maometto? Sono bellissime! Cerca di sganciarti, da questa chiusura mentale. Ma io mi disgancio da quello che voglio io. Io ritengo indegno fare della satira razzista. Vabbè, e non ci andare, non ci andare. Non ci andare. Ma non ci andare agli spettacoli, perché devi vietare. Hanno applicato una legge dello Stato. Ma che c'entra? Ma si trovano le possibilità di applicare le leggi sempre quando uno vuole, dai, smetti. Che per voi il politicamente scorretto. Ma non c'entra nulla, non capisci. Perché non capisci? Perché quando ti toccano la comunità ebraica diventi pazzo, perché se tu dici una cosa in cui non credi, perché io sono convinto che tu non ci credi. Tu non ci credi a questa. Perché c'è un tipo di umorismo. Ma perché? Ma chi lo decide? Ma chi lo decide? Chi lo decide? No. Quello che è violento, chi lo decide? C'è un tipo. Ma c'è ancora cose che sono abbastanza evidenti, però. che è offensivo e violento. Oddio, perché? Perché dice che l'olocausto, che gli ebrei ci marciano sull'olocausto, perché dice che Hitler in fin dei conti, eccetera, eccetera. Che incita all'odio. Non mi interessa, hai il diritto di fare gli spettacoli e non ci deve essere un consiglio di Stato. Tutto dovevi nascere negli anni 30. Ma cosa c'entra, mamma mia, cosa c'entra? Tutto dovevi nascere negli anni 30 e fare zanzare. Guarda, io sono convinto, Nicol Pop. Io sono convinto che se non ci fosse, se non ci fosse per te intorno quello che c'è intorno, non la penseresti così. Io dico se intorno a me c'è me stesso. Sì, e io dico che mi fa orrore. Ti fa orrore, anche a me fa orrore. Satira. Anche a me fa orrore. Dopodiché razzista, no, non la voglio vietare, capito? Razzista. Non la voglio vietare, capito? Io dico lo Stato francese, che non è governato da una lobby di ebrei, sì, ha deciso autonomamente di bloccare in alcuni teatri questo qui che dice di essere un comico, che in verità è un comiziante, un politicante. Vabbè, questo non lo decidi tu se è un comico o no. Beh, c'è stato anche candidato. Non lo decidi tu. No, il secondo figlio credo sia stato addirittura battezzato, il padrino è Marine Le Pen. Allora? Ha creato le elezioni questo. Ma qual è il problema? È un movimento legittimo il Front Nazionale, è presente al Parlamento Europeo, forse anche con 2-3 deputati al Parlamento Nazionale Francese. Ma cosa vuoi? Ma di che parli? Quando uno alimenta della propaganda razzista, però in quel paese ci sono delle regole. Vabbè, ma tanto sei, hai gli occhi foderati quando si parla di queste cose. Dai. Dove stai, Parenzo? Te voglio mandare io l'ambulanza, dimmi dove stai. Sentirvi, ma voi siete dei fenomeni. Giuseppe, provincia di Chieti. Ah, buonasera, Cruciani. Oh, bentornato. Quest'altro che c'ha 9.000 telefoni, chiamo ogni volta dalla provincia di Chieti. Ma quali 9.000? Quali 9.000? Avanti, su, passiamo. Allora, è reattivo, è pimpante, si è ricaricato. Dimmi. È stato al sole o alla neve? Ma sono cazzi miei dove sono stato, Giuseppe, dai, forza. Scusi, no, volevo essere bravo stasera, no. Però mi si sono girati i coglioni a sentire mezz'ora che aspetto e a sentire Telecabul. Ma Telecabul quando le dà per dire quelle per far sentire le stronzate che dice? Giuseppe, ma che vuole lei stasera? Mi spiega che vuole? Mi spiega? No, questo mi ha fatto incazzare sentire quel che mezz'ora da aspettare. Comunque, volevo dire questo, che sì, è tornato pimpante, sì, è bravo. Poi, volevo dire sì, che sono d'accordo con lei a proposito dei giudici del TAR, del Piemonte, di, sì, di Torino, no, sono d'accordissimo. Poi, volevo dire un'altra cosa che la riguarda, no? Sa che lei ha battuto il record nel 2013? Di che cosa? Mo glielo dico. Allora, sì, ho messo un contatore di male parole dal sì, 2011. A parte che lei l'ha battuto in questi 5 minuti, già l'ha battuto lei pure il record. No, in male parole non l'ho detto io. Io ho detto solo con gli occhi. Vabbè, dico troppe parolacce, va bene? Questo vuole dire, in sintesi, vuole dire questo? No, volevo dire. Allora, c'è stato un aumento esponenziale dal 2011 al 2013, del 30% annuale. Quest'anno che fa? Lo batte ancora com'è? Ma cosa, di parolacce, dice lei? Di parolacce, no. Senta, quanti telefonini ha lei per chiamare la zanzara? Non solo telefonino, un solo numero. Sì, glielo può dire la sua aiutante, la sua segretaria. Sì, certo. La sua comunque, aiutante. Cruciani, dimmi, continui così, no? Mi raccomanda, non farsi troppe canne. Che il ma io non me ne sono mai fatte in vita mia, è Parenzo che se le fa. Per no, questo, no, per questo dice. Un cocainomane, no, cocainomane rimbambito completamente. Ma come cocainomane quello rimbambito? Rimbambito completamente, che non ha mai lavorato in vita, si è fatto solo prima è partito con le canne e poi è passata la cocaina. No, questa frase credo che le costerà il fatto che anche se il numero è verde dove chiama alla Cesana. No, ce l'abbiamo. No, dico quando lui chiama e fa l'800. Ma rispondi, ha dato il cocainomane, ti ha dato. Appunto, dico questa frase. Cioè, purtroppo da oggi non potremo più sentire questo ascoltatore perché da domani gli arriva una querela per diffamazione e dovrà vendere la casa, credo. cocainomane, vada a lavorare. Lei ha solo una proprietà o ne ha due? Perché questa è la seconda proprietà che mi prendo. Quante ne ha lei? Ma sono blindato, non può fare niente. Allora intesti tutto alla sua compagna o moglie, perché altrimenti è un problema. Ma lei si comporta sempre così nella vita, cioè ha sempre cercato di sotterfugi, vada a lavorare. Ma lei, scusi, ma lei vive, come si vive con una scoreggia in testa? Ma guardi, lei da comunista di merda qual è? Ma io delle ricerche, volevano prenderla per capire come si vive con l'aria in testa. Se ne vada in Siberia, che solo là sta bene. Cioè si vive con i gas in testa, quando si riescono ad articolare delle frasi di testo compiuto. Ma io con questo rimbambito non ci voglio parlare, dai. No, no, voglio sapere, con i gas in testa, che è un fenomeno interessante. Luciani, che vuoi, Giuseppe? Io non voglio parlare con questo rimbambito. Gli hai dato il cocainomane. Ma perché con questa cosa del cocainomane? Insisti con questa cosa del cocainomane. Allora, questo signore qua, sì. Io mi domando, come fa Radio 24, sì, la Confindustria a pagarlo? Sì. Lo paga lei a questo qua? No, gliela no, raccomandato Confindustria. L'altro bolscevico telese? No, ma che c'entra il bolscevico? Ecco qua come scopriamo le maccatelle. Cosa ha detto lei? Ma lei cosa fa dalla mattina alla sera? Di mestiere? Ma non fa che niente, della in testa, come fa? Io lavoro, Cruciani, lavoro. Che al fa di mestiere? Di lei, che fa? C'è una piccola impresa. E adesso sto nello studio sentendo le vostre cazzate. Ma quale studio? La parola studio è associata al pensiero. Come fai a essere uno studio? Già, ma questo rimbambito parla ancora. Io non lo voglio sentire. Cioè, questo qua oramai è da. Cioè, si è bruciato il cervello. Sai che è un caso rarissimo, il signore? Sì. È un caso rarissimo di cervello vuoto. Cioè, è veramente strano perché è interessante da studiare. È un cervello vuoto dove dentro c'è soltanto dell'aria. E quindi gli studiosi, anche a Ginevra ad esempio, stanno cercando di capire come è possibile che lui ogni tanto riesca addirittura a prendere un telefono, a comporre un numero e a chiamare. Cruciani, mi dica la verità, lo paga lei a questo rimbambito qua? No, Confindustria. Confindustria, andiamo bene. Confindustria. Ma lei che è giornalista, si spaccia per dottore. Comunque la vergogna vera, la vergogna vera pronunciata questa sera da Parenzo, lui il grande democratico, lui quello che, no, il grande professionista delle libertà, quello che impugna sempre la spada dei diritti per tutti, tranne che per quelli che parlano male di Israele, degli ebrei, dell'olocausto. Per quelli invece no, la gogna. Non possono fare gli spettacoli, non possono manifestare il loro pensiero. Anch'io sono profondamente legato a Israele, sono profondamente contro questi signori, contro le loro idee, però non mi permetterei mai, per nessun motivo al mondo, di proibire gli spettacoli. E dunque vergogna la Francia, vergogna la Repubblica Francese per queste cose che fa, vergogna. Invece Parenzo sta là a dire no. No? Siccome nessuno ha il coraggio, gli ebrei veri, quelli democratici, dovrebbero dire: questo qua è contro di noi, ci fa un mazzo così, ogni volta sputa addosso al popolo ebraico, sputa addosso a queste cose, sputa addosso alla nostra storia, facciamolo parlare, perché si ridicolizza da solo. David, quando ti insultano ricordati che Mario Di Alba ti vuole bene. Pubblicità. Che bacca, tu mi hai aperto un mondo, ora ho capito cos'è un fondo. Nasce Risparmio Gestito Che Banca. Investire non è mai stato così pop. Fino al 30 giugno 2014 paghi solo la commissione di gestione. Foglio informativo e documento informativo su chebanca.it. Che Banca. Scegli il giallo. La Zanzara. Quanto siete stupidi. Siete proprio insopportabili. Amici, che adesso non è che... No, non esageriamo, su. Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Domenico da Salerno. Domenico? Domenico, pronto? Dica. Pronto. Vai. Buonasera, io faccio uno sforzo sovrumano, le do del lei e non la insulto. E vabbè. Però almeno un po' che lei è una chiavica, proprio una chiavica. Una chiavica. Io lo devo dire, sì, la sto trattando, mi sto mantenendo. Secondo me, sì, in passato c'è stato un napoletano che le ha fregato la fidanzata. E voglio dire fregato, anche questo è un eufemismo. Lei dice delle banalità. Io con i napoletani, ma quando mai? Ma i cani, la cacca dei cani, schedare il DNA. è un segno di civiltà, caro mio. Parliamo di cosa? Ma era una battuta ironica. Ma era una battuta, era una battuta. Domenico, chiama, no, chiama qualche alcolizzato del nord e fallo intervenire, che sono amici tuoi, venduto a scaro. Si chiamano Ascari quelli come te. Eppure non sei nemmeno del nord. Ma che t'ha fatto il sud? Vabbè, questo è impazzito. Che t'ha fatto? Hai perso la brocca. E Palermo, dai. E tu e, e quelli di a Palermo ci stanno 20.000 forestali. E basta. Vi siete mangiati. Hai perso la brocca. La ma vi siete mangiati chi, Domenico? Vi siete mangiati chi? Di cosa nord, stai parlando? Il nord campa sul sud da 150 anni. Sì, beh, certo. Allora dici butti il mercato. E poi parli dei ma di che parli? Ma di che parli? Di cosa stai parlando? Di Berlusconi. Ma adesso stai delirando? Non sono buoni, però tu sei al delirio. Tu lo sai che adesso ti faccio incazzare. Un attimo. Sì, ma un attimo se lo dico io. Vabbè, d'accordo. Sì. Se invece sono i cani di Napoli puzzano. Ma chi l'ha detto che puzza? Allora, ma chi l'ha detto? Domenico, ironizzavo sul fatto che il comune di Napoli spenda dei soldi. Perché ma cosa? Che costa? Per... Non costa niente. Non costa niente, parla sì, lo sai tu. Parla dell'Expo che sta in mano all'Andrangheta, parla di questo, perché vabbè. Non ne parli? Vabbè. L'Expo, lo sai come sì. Si scrive? Adesso con ti... la H, sì. Si scrive Expo, hai capito? Non lo dice nessuno quello, e non ti conviene, lo sai perché? Sì. Perché la mafia, la camorra e l'Andrangheta, a te e quelli come te, se li sono comprati, li sono comprati a Berlusconi, ce l'hanno messo loro là, sì. E tu parli dei froci, se la merda è di Dudu, profuma! Senti, ti faccio incazzare... Hai capito? L'hanno comprato! Sì, mi hanno comprato! Stanno pagando e non te ne sei accorto, ce l'hai col sud! Sì, tu non quando c'è dubbio. Parli del sud... Sì. Mettiti la candeggina in bocca e fai i gargarismi. Bravo Domenico, bravo. No. Ti ho fatto sfogare, no, ti ho fatto ti ho fatto sfogare un po', bravo. Ti sei sfogato bene. Vergogna, allora, ti dico solo che a New York, sai che cosa è successo nei giorni scorsi? Non costa niente. Chiama qualche alcolista del Domenico, nord, sai cosa è successo a New York nei giorni scorsi? Sai che cosa è successo a New York nei giorni scorsi? Sì, lo sai? Sì, allora, sì. È scoppiato uno scandalo pazzesco, il capo della polizia di New York è praticamente ha favorito alcuni suoi colleghi poliziotti nell'ottenere le pensioni di invalidità suggerendogli di per dire favore, non mi dire che quello era di origine napoletana amico mio fermati sì. Qua sì amico mio sì. Non mi fai. Esposito era si chiamava Esposito leggi il Mattino che di Napoli cazzo significa il signore che Esposito significa? Che organizzava la grande truffa la grande truffa organizzava amico mio ma la grande truffa ma che parliamo di cota la di grande cota. Truffa organizzava New York, star campana, regista dei falsi invalidi, vendeva cannoli a San Gennaro. Beh, questo era uno di quelli che diceva di essere disabile, in realtà vendeva cannoli a San Gennaro. Joseph Esposito aveva procurato certificati a vigili del fuoco e agenti. Il bello che il giorno prima, il Mattino, grandissimo giornale, aveva detto: beh, tutto il mondo è paese, anche a New York ci sono i falsi invalidi. Il giorno dopo si è dovuto correggere perché il regista dell'operazione era campano. Si scherza qui, si scherza, però era per rispondere a quel tizio di prima che comunque aveva la sua verve. In collegamento dalla Sardegna Antonello Zappadu, fotografo candidato in Sardegna nella lista di Michela Murgia. Buonasera caro Antonello. Buonasera. Come stai? Bene. Vuoi salutare Parenzo? Che c'hai? Grande Zappadu. No, non lo saluto a Parenzo. Perché non lo saluti? Oh, che è successo? No. Ti sta sulle palle? Che ha fatto? Mi sta sulle palle, vero? Perché? Ma perché è venuto in Sardegna e non è venuto anche a trovarmi? Ma quando sei andato in Sardegna? Oh! No, sono andato. Saluto Antonello con un abbraccio. Sono andato in Sardegna un po' di tempo fa, però lui non c'era perché era in Colombia e ho trovato suo fratello, il mitico Tore. Ma c'eri o non c'eri, Antonello? Scusa, no, lui non c'era. Andato in Colombia. Eh? Non potevi fare un salto in Colombia? Sì, in Colombia. in Colombia, Parenzo in Colombia, quello ha difficoltà pure a muoversi da Roma, muoverso in Colombia, ormai è bloccata, è morto, è finito, non si può muovere più in morto Colombia. Morto sei tu, morto. In Colombia. Morto sei tu, io sono andato in Sardegna per i fattacci miei e sono andato a salutare il mio amico Tore, che è il fratello di Antonello, sì, e abbiamo anche mangiato lì, è venuto a prendermi. Vabbè, con quello che è. Compagna all'aeroporto, siamo stati insieme, siamo andati a mangiare in un posto molto carino, ha pagato lui. Perché tu non paghi mai il conto. Abbiamo mangiato una Seadas stupenda. Addirittura. E tu non sai neanche che cos'è, perché sei veramente una capra, quindi non sai cos'è la Seadas sarda. Ma sì, sarà una zuppa di pesce. Che, no, che cos'è? Ma che zuppa di pesce? Vedi che non sai, no, niente. È un dolce. No, io non li mangio i dolci. Per non sai niente. Comunque, torniamo al mitico Antonello. Formaggio col miele. Vabbè, Zappato, fotografo, come sapete, Villa Certosa, eccetera, eccetera. Più di un fotografo. Sì, più di un fotografo. Quello che ha fatto scoppiare lo scandalo di Villa Certosa in epoche, diciamo, ormai passate. Zappato, voglio chiederti una cosa, ma che casino è successo? Tu sei, adesso ti candidi con la lista della Murgia, prima eri candidato, sì, ti volevi candidare con Grillo, è successo, sì, sì, esatto, il pandemonio, si sono divisi tra 4-5 liste, difficoltà, ma ti rendi conto che il primo partito dalla Sardegna, Grillo, non è riuscito a candidarsi in Sardegna perché si sono impicciati tra di loro nel modo come selezionare i candidati? È una cosa pazzesca, dai, di chi è la colpa? Grillo che colpe ha, Zappato? Ma Grillo ha la colpa di non aver previsto questa cosa, cioè stava succedendo e lui evidentemente non ha capito quello che stava succedendo, nel senso che alla fine doveva scendere in Sardegna e noi glielo chiedevamo, cioè ha dato delle indicazioni che poi noi abbiamo rispettato, però evidentemente non gli andavano bene per poter parare il colpo. Ma ho capito, ma ti pare normale, Zappato, che uno che è il primo partito in Sardegna non riesce a presentare il simbolo, eccetera, non dà il simbolo a nessuno, deve essere assolutamente no. Dai, su. Sei attento. Sarà pure colpa sua, no? Ma c'è un metodo di selezione, perché uno non fa una selezione normale? Fanno le primarie, eccetera, questa cosa del web, tutti i criteri che per la gente sono un po' oscuri, o no? Sì, ma al di là di questo, aveva rinunciato anche a questo tipo di selezione, cioè nel senso che l'idea era... si crea un gruppo di persone, fanno il programma, dopodiché in mezzo a questo gruppo di persone si vede chi ha lavorato e a questo punto si scelgono le persone che devono essere candidate, tant'è che non c'era neanche una corsa a candidarsi, eravamo 41 inizialmente. Vabbè, insomma, secondo te alla fine si doveva candidare Grillo, cioè doveva candidare la lista, doveva presentare la lista? Secondo me sì, almeno la lista quella formata da Polese, da Alessandro Polese, sì. Senti, ma quando tu parli di massoni e fascisti infiltrati, non è che ti sei bevuto il cervello pure a te, no? No, assolutamente, è la verità. Cioè, non ho capito. È per questo che noi ci siamo blindati all'interno del gruppo nostro, no? Perché non volevamo assolutamente che... Gruppo c'era nostro. Una condizione, bisognava candidarsi quelli che erano stati iscritti entro il dicembre del 2012, d'accordo? Allora? E c'è stata una corsa a iscriversi ai meetup, a iscriversi nel blog e tutto chi sono stati? È stato lì il rischio, c'era gente che proveniva chiaramente da vecchie elezioni, proveniva da movimenti di destra. E perché tu dici massoni e fascisti? Che c'entrano i massoni e i fascisti? Appunto, sono loro che si andavano a iscrivere. Cioè, i massoni, e chi sono i massoni? I massoni, cosa sono i massoni? È una setta, una loggia. Cioè, i massoni si volevano infiltrare dentro le liste di Grillo? Erano infiltrati, non si volevano, erano infiltrati. Erano infiltrati attraverso queste iscrizioni ai meetup, dici tu? Esattamente. Perché faceva gola il fatto che un movimento come Grillo fosse il primo partito, diciamo, e poteva prendere un sacco di voti e dunque un sacco di consiglieri regionali. Io vado anche oltre. Cioè? Era importante anche distruggere il movimento. Addirittura. Ma certo, e si è arrivato a distruggere, hanno vinto loro. In effetti è vero quello che si dice. Loro adesso stanno scrivendo spessissimo nel loro blog e in Facebook che abbiamo vinto, ma è vero che hanno vinto. Ah, cioè hanno vinto nel senso perché hanno impedito lo scopo. La Sardegna non ha la lista 5 Stelle. E i fascisti chi sono, quelli che si sono infiltrati? Scusa Domenico. Ci sono non Antonello. Faccio nomi e cognomi, altrimenti mi becco un'altra querela, un'altra denuncia. Vabbè, dimmi chi sono, chi sono i burattini di questa operazione che ha fatto, ha sabotato la lista Grillo in Sardegna. Chi sono i burattini? Chi sono i capi di questa operazione? I capi li puoi trovare su internet, basta seguire i meetup e li trovi. Basta non seguire... puoi dire il nome, non voglio querele, non voglio denunce, non ne voglio. Ma ho capito però. Va bene, non si è capito niente. Cioè, tu dici massoni e fascisti si sono infiltrati attraverso le iscrizioni ai meetup, esatto, e hanno fatto saltare, esatto, hanno fatto saltare la lista, la presentazione della lista Grillo. Vabbè. Esattamente, creando scompiglio, creando problemi di continuo, no? Non seguendo per esempio le direttive che Grillo aveva dato, che erano quelle che diciamo erano le direttive date a Poletti. Vabbè, Zappa, com'è che ti è presa questa passione per Grillo? Dopo, da sei passato da ingroia a Grillo, per esempio. No, che ingroia? Io ingroia l'ho mandato subito al diavolo, non è vero? Ah, subito al diavolo l'hai mandato ingroia? Certo, non ti ricordi? Sì, adesso voi, ho ricordi vaghi di quel periodo, insomma. Senti, Zappato, volevo chiederti, ma tu hai ancora un po' di foto di Berlusconi da qualche parte? Certo. Come certo? Cioè, foto che non sono... compromettenti. Esattamente, sì. Ma che tipo di foto sono quelle? Che tipo di foto? Che sono foto che sono blindate in Colombia e le stiamo trattando con un gruppo editoriale messicano. Messicano? Ma che foto sono? Sì. Sono ancora foto di esterni di Villa Certosa? Sì, sono fotografie di Villa Certosa e d'aeroporto. E di? Il clamoroso dell'aeroporto. Dell'aeroporto? Ah, suo, quello interno? No, dell'aeroporto da Costa Smeralda. Ah, ma quelle più scottanti? Quelle più scottanti quali sono? Cioè, foto che ritraggono che cosa? Villa Certosa. E in particolare cosa? Scusami, Zappato, voglio capire, cioè, queste foto qui sono davvero scottanti oppure ormai sono robetta che nessuno vuole? No, sono davvero scottanti. Perché? Cosa provano? Ma perché mi volete far parlare di cose che non voglio parlare? Ma che t'ha fatto il Sud? Che t'ha fatto? E Palermo, e tu e quelli di a Palermo ci stanno 20.000 forestali. E basta. Vi siete mangiati l'Italia senza nemmeno la forchetta. Siamo come lei, siamo come lei. E basta. Allora, siccome oggi il segretario della CGIL Camusso ha detto di essere d'accordo, comunque ha aperto al progetto sul lavoro di Renzi, impropriamente detto Jobs Act, dalla parte di Renzi ci sono Landini, Camusso, ci manca solo, che ne so, il Partito Comunista dei Lavoratori e stanno a posto. Tutti d'accordo significa che è acqua fresca, cioè nulla. Di solito è così, cari amici, è così. Una spina nel fianco, fastidiosa realtà, una macchia nera sul vestito bianco della normalità. La vergogna di quello che è successo in Piemonte: dopo quasi 4 anni, un TAR qualsiasi dice che bisogna tornare alle urne. Vergogna, vergogna, vergogna. A me non me ne frega niente di Cota, Ma se la sinistra si vuole prendere la regione, se la prendesse tra un anno quando si va a votare. Voto annullato 4 anni dopo. Ma non è l'Italia, è una barzelletta questa cosa qui, una barzelletta. Ma scusami, Giovanotto, cosa c'entra la sinistra? Una barzelletta, se la sinistra che esulta... Ma volevo chiederti, Giovanotto con la barba e i capelli lunghi, cosa c'entra la sinistra? Senti, è evidente, no, nulla, ma è evidente... E allora, Giovanotto, perché fai questa associazione? È evidente che il TAR maramaldeggia perché c'è... È ovvio che la sinistra che è all'opposizione dice ora si va a votare, che deve dire, Giovanotto? Dai, su, dai. Ma scusami, Giovanotto, ma che deve dire? Dovrebbe dire che il TAR è una vergogna, dopo 3 anni e mezzo non si può decidere nulla, hai capito? Energumeno della radio, che cosa deve dire? A farla finita. Che deve dire energumeno? Ma smettila. A proposito di energumeni, certo che oggi è andato giù forte Libero, Libero che ha ironizzato sui 3 collaboratori che lavorano con la Chienghe. È un caso, però è curiosa la cosa. Il titolo è questo: negro, marrone e carbone. Cecil si fa il suo monocolore. È ovviamente una coincidenza, ma il segretario particolare della Chienghe si chiama Paolo Negro. Il capo di gabinetto Angelo Carbone. Questo è carino. Il consigliere per la cultura e il dialogo interreligioso altra cosa pazzesca, consigliere per la cultura e il dialogo interreligiosi. Adesso me ne sono accorto, il consigliere del ministro dell'integrazione, cioè un consigliere per la cultura e il dialogo interreligioso. Probabilmente lo paghiamo anche, il consigliere per la cultura e il dialogo interreligioso del ministro dell'integrazione, capito? Cioè non basta un ministro, ci vuole anche un consigliere per la cultura e il dialogo interreligioso. Però che si chiama? Scusa, al di là della carica, che può, del nome, dai, che può fare, si chiama Marco Marrone, tra l'altro. Marrone, però, carbone, scusa, nero. Al di là, allora, al di là che può far ridere, come dire, la nomenclatura, sì, però tutti i ministri hanno dei consiglieri. Ma sì, ma a parte che quello è un ministero, certo, allora l'ironia andrebbe fatta anche sul consigliere del ministro dei trasporti, no? Dai, consigliere su, a che i treni arrivano in orario, dai, cioè, dai. Ma no, ma dai, i ministri hanno dei consiglieri o no? Sì, vabbè, eravamo rimasti con Zappato sulle foto scottanti di Berlusconi, Certosa, aeroporto, cioè, di Orbe. Allora queste foto dovessero essere pubblicate, Zappato, cosa accadrebbe? Cosa potrebbe accadere? Che altra bomba scoppierebbe? Beh no, dai, adesso si parla soltanto della storia della Repubblica. Della? Della Repubblica, della Seconda Repubblica. No, ma ho capito, Zappato, le foto di Villa Certosa cosa queste raffigurano? Queste che hai bloccato lì, che stai trattando con i messicani, cosa ci fanno vedere? Persone o solamente luoghi? No, persone e luoghi. E i luoghi cosa c'è di strano? Cosa c'hanno? Degli abusi, per esempio? Ci sono degli abusi, ci sono delle situazioni anche abbastanza infantili, no? Delle, cioè? Statuette in giro per il bosco. Che statuette sono? Ma statuette, cioè delle statuette, diciamo, di fiabesche. C'è molto Pacchiano. Vabbè, quello chi se ne frega. Quello è il gusto, chi se ne frega. Quello è il gusto. Questo è il gusto, perfetto, d'accordo. Però poi ci sono alcune cose che sono... Ma che so, ci sono dei nani che fanno giochi di erotismo? Anche, ci sono statue in bronzo. Statue in bronzo con falli... No, aspetta, ti spiego. Aspetta, fammi capire. Ma Parenzo, perché lo sai? Non è che l'hai vista queste foto tu? Pronto? Non è che l'hai vista queste foto? Ma io non so. Sì, io? Io no, certo che le ho viste. No, Parenzo. Io non so di cosa parli. Vabbè, allora dai, forza, che c'è in queste foto? Sì, io le ho viste. Oh, ha visto queste foto, che c'è in queste foto? Ma in queste foto ci sono, stavo dicendo, delle scene erotiche. Cioè, statuette, che cosa c'è? Sono delle statue in bronzo. Statue in bronzo? Che per esempio c'è un 69. Ah, un 69 con... No, ma aspetta un attimo, cioè, la cosa... Cerchiamo di capire, ci sono delle statue, sì, che rappresentano, diciamo, posizioni erotiche, però su questo nulla di male, no? Vabbè, sì, però, ma aspetta, dove stanno queste statue nelle foto? Aspetta, ma in queste foto ci sono, oltre alle statue, anche persone attorno a queste statue? Vabbè, è inutile, no, che ti fa la domanda, no, da solo, se l'hai vista, no? No, io non ho visto niente. Tu, queste statue, no, sono... No, le ha viste, non è vero, le ha viste. Ma ci ma sono... io non ho visto niente. Ci sono queste statue, sì, e persone intorno con queste statue erotiche? No, le persone sono quelle sempre le solite, per esempio, voi avete visto solo una foto di Topolanek, è vero? Sì. Sì. Secondo voi ne ho fatto solo una? No, e che ne so, no. Certo. Ma in queste foto c'è... Certo, sì, ma in queste foto, perché Topolanek, che dopo le mie foto si è dimesso non soltanto dalla politica ma da tutti gli incarichi. Ma scusa, che ci sono foto più scottanti di quelle che abbiamo visto, come Topolanek, sì, che sì, cioè, che fa, si fa fare, ci qualche sono cosa, foto scottanti di si Topolanek, fa certo, si fa fare un pompino, che ne so. No, dai, ragazzi, si fa toccare, che ne so, cioè qualcosa di più scottante, che significa? L'abbiamo visto con l'uccello ci di fuori, foto più scottanti. Ci sono fotografie scottanti, punto. Scottanti, ma gli abusi edilizi pure ci sono? Certo, tantissimi. Tantissimi abusi. Cosa vuol dire tantissimi? Ma perché non viene venduta sta casa di Villa Certosa? Per questo, secondo te? Perché ci sono questi abusi? Esattamente, e li creano grossi problemi. Soprattutto le fotografie che ho, lui lo sa e quindi è molto preoccupato da questo. Ma ci sono anche dei passaggi segreti? Non ho capito, scusa, che hai detto, Antonello? Che è un anno che non viene a Villa Certosa lui. Sì, passaggi segreti li abbiamo già visti, quelle là, no? Ce ne sono altre ancora, pure di queste, no? Pure di passaggi segreti? Diciamo che c'è una specie di bunker di 3.000 metri cubi sottoterra. Sì. Sotto 6 metri di terra. Ma questo l'abbiamo già visto, no? Credo, sono stati già... No. No. No. Io l'ho vista da qualche parte. Ma c'è anche qualche tempio, tipo qualche... È stato raccontato, ma non è stato visto. Bunker di 3000 metri quadri. E c'è anche qualche tempio? Sì, sì, c'è anche un tempio, ma non è solo quello che mi preoccupa. Mi preoccupa... Un tempio di che tipo? Ma il tempio di Salomone. Massonico? Massonico, sì. Tempio massonico. Con circa 40 sedie intorno alla tavola rotonda. Ce n'è una che spicca perché è più grande, è più... Ma scusa, queste foto qui, quante ce ne sono in tutto? 700. 700 foto che stai trattando con i messicani. Ma quanti soldi speri di spillare? No, messicani stiamo trattando tutto il materiale, sinceramente. E quanti soldi speri di spillare? Ma qual altro materiale c'è, scusa? Non lo so, stiamo parlando. Io prima di partire in Italia e venire qui in Italia, è stato da Bogotà, perché io non sono di Bogotà. Io sto a Cali, sì. Ho preso un aereo, sono andato a Bogotà e ho parlato con loro. Quindi è iniziata una trattativa. È iniziata una trattativa. Ma perché, scusami... Ma ci sono foto anche della Pascale? Sì, anche della Pascale. Beh, la Pascale è stato il primo a fotografarlo sull'Espresso, le fotografie in copertina dell'Espresso. Era la Pascale con la sua amica. Con la sua amica, sì, sì, all'epoca. Che anno era? 2011 o 2012? 2011. 2011. Ma ce ne sono, hai foto nuove della Pascale a Villa Certosa? No, no, non credo. Può darsi. Ma come può darsi? Cioè, sono 20.000 le fotografie che stiamo rivedendo. Come 20.000? Ma sono 700 o 20.000? Non ho capito. No, 700 sono quelle dentro Villa Certosa. Ah, ho capito. E 20.000? Vabbè, tutte le foto. 20.000 sono tutto lavoro mio. Tutte ma le foto. C'è un archivio che ha detto 20.000 foto di Berlusconi. Ma no, di Berlusconi, tutto l'archivio. Sì, aspetta. Tutto l'archivio. Quelle 700 sono quelle fotografie che mi sono arrivate in forma anonima, capito? Ah, non sono tue. No, non sono mie quelle. No, perché sono fotografie interne alla villa. Ma quale forma no? Esattamente, io non sono mai entrato alla villa. Cioè, Cruciani non capisce perché non sa la storia. Ma qua lo so, ma quale forma anonima? La notizia che ci dà Zapadue. Sì. Ci sono una serie di foto scattate dentro la villa, perché lui quel tempio mica lo avrebbe mica centrato. Sì, certo. Ci sono tutte queste foto dentro la villa che gli sono arrivate. Sì. E poi ci sono le altre foto, quelle che ha scattato lui da fuori. Ma la Pascale, quante foto hai delle foto nascoste della Pascale con Berlusconi? No, delle foto mai pubblicate. No, ma quelle della Pascale sono sempre le solite. Le per solite, cui, diciamo, vabbè. Quelle che ha pubblicato l'Espresso racchiudono tutta la sequenza fotografica, per cui della Pascale saranno un 300-400. Ma come andrà a finire questa storia con la Pascale, secondo te? Tu che sei un esperto delle storie di Berlusconi. Ma guarda, sinceramente non lo so. Non lo sai, eh? No, non lo so, e non mi interessa, non me ne frega una minchia. Non te ne frega una minchia. Ma tu stavi tanto bene in Colombia, che te sei venuto qua a candidarti, Antonè? Sto facendo un progetto con le Nazioni Unite e il responsabile delle Nazioni Unite è stato trasferito prima da Bogotà a Parigi, adesso da Parigi a Roma, e quindi devo lavorare con lui in questo periodo. Vabbè, Antonè, ciao, a presto, ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Spettacolare, spettacolare. Rosa, se va bene rosa, no. Ma poi invece si appoggia proprio addosso a me. No! Siamo ha detto che ha detto che non si può spruzzare lì di lì. Ancora qua, siamo ancora qui con Pippo Baudo scatenato contro Bruno Vespa questa mattina durante la trasmissione di Minoli, perché poverino Pippo Baudo non è stato invitato per i 60 anni della festa della Rai durante la trasmissione di Vespa. Io me ne sarei fatto una ragione, lui invece è avvelenato e insomma stamattina come si è fatto sentire, mi hanno messo come un pannello in un angolo. Non so com'è andata, so che non sono stato chiamato, la trasmissione non l'ho vista, mi hanno detto che ero in un pannello messo in un angolo come se fosse uno scomparso. Marrendo, moschito che hai avuto tu. Vivo un momento difficile psicologicamente. Onestamente sto vivendo un momento molto difficile e complicato, dal punto di vista psicologico, proprio come, come trattamento, perché non mi sento vecchio, non mi sento superato, mi sento ignorato, mi sento cancellato addirittura da quello che ho fatto per 54 anni ai vertici. E poi io penso che di avere fatto una buona televisione. Vespa fa un uso privatistico e padronale della televisione. Sono soltanto dolorato perché non si può fare un uso privatistico, privato e padronale del mezzo televisivo. Che è quello che consideri fatto da Vespa, mi pare di capire. Sessant'anni con protagonisti di primo piano. Allora cominciamo da una star dello spettacolo, è Carlo Conti. Ci sono, buonasera, ciao Bruno. Piero Angela, eccolo Piero, il nostro decano. Eccolo la nostra bambina Antonella. Bentornato ben trovato. Paolo Bonolis. Nonno libero. Nino Banchi, Fabrizio Frizzi, Bruno Pizzoli, Antonio Lubrano, mi manda Lubrano. Beh certo, Conti sì e Baudo no, quello si incazza, no? Bonolis, beh sì, mancava solo lui. Poi da una parte uno può dire sti cazzi, no, di porta a porta, ci saranno altre occasioni anche ufficiali della Rai. È normale che ci rimanga male uno... Cioè... pezzo di storia della televisione come tipo, vabbè, però uno a un certo punto deve dire ma chi se ne frega, vabbè, ma scusa, è come se a te non ti invitassero, ma chi se ne frega di porta a porta, ma non è che la cosa credo che non sia la cosa, è come se alla Radio 24 non ti citassero più, farebbero anche bene, come se a un certo punto, ma no, succederà ti che dimenticano, non succederà. Ti mettono neanche una via, ma neanche un gabinetto. Capito, ma quella è porta a porta, non è che tutta la Rai, cioè è porta a porta, però quella è una puntata dedicata a quello. No, infatti ho detto sembra, che da una, no? parte, da una parte se ne doveva fottere, dall'altra pure Vespa, e basta questa storia dello sputo a Don Hatten. E vabbè, non so se ha sputato davvero all'autore. Sembra uno sfregio. Ma quella Vespa l'ha detto, non è stata una scelta così perché non c'era, eccetera. Una scelta proprio deliberata. Lui ha sputato a Don Hatten, che è il mio autore, per delle divergenze, eccetera. Si è comportato male, deve prima chiedere scusa. Ma gli ha sputato in che senso? E ha sputato, non so in che modo. Ha sputato. Ma in senso fisico o in senso dialettico? Ma gli avrà sputato addosso, no? Ma in senso fisico, proprio fisico. Almeno ma così io sembra. Non posso credere che il signor Baudo così elegante. Che ne so, sputato. Magari in una diatriba, in un litigio così, quello gli ha sputato. Pum! Baudo. Dario, provincia di Bari, eccoci qui. Pronto, salve, buonasera. Ciao, signor ciao. Cruciani. Senta, io le vorrei parlare, anzi, vorrei asserire al discorso del signor di 67 anni. Quale? Aveva ragione quando diceva depravato, però non è solo questa la situazione. Pronto? Ma depravato a chi? Non ho capito. Vabbè, in situazione degli omosessuali sono un po' depravati perché hanno infangato un po' la famiglia sana, la famiglia, come si può dire, di Dio comunque, tradizionale. Questo tradizionalismo ormai perso, ormai disperso in questa vasta gamma di, come si può dire, di importazione dall'estero, perché l'Italia si può dire che è stata un po', come si può dire, decurtata da questa tradizione. Quale? Quindi, quale tradizione? Come la famiglia, come il lavoro, come in tutti i punti di vista. Ma di che parla? Ma non è vero, mamma mia. Ma perché? Guardi, venga al sud e veda un po' la situazione che stiamo subendo noi. Stiamo subendo proprio questa situazione. Quale? Del migrante. Del? Migrante. Senta, ma ha rotto le scatole, è traffico. Fa male solo a chi non sa ridere. E la zanzara. Strade in diretta. Sul grande raccordo anulare, code da smaltire tra Bufalotta e Nomentana in carreggiata interna, sono le conseguenze di un incidente adesso risolto. E c'è stato un incidente anche sulla statale 1 Aurelia, code all'altezza di Castel di Guido in direzione Civitavecchia. Infine prudenza per la nebbia in banchi in Emilia Romagna e nelle vallate abruzzesi e poi in Puglia. Visibilità molto ridotta sulla 14 Adriatica tra Gioia del Colle e Mottola. È tutto, a più tardi. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Nicola da Modena, buonasera. Nicola, eccoci. Ciao Cuciani. Ciao, ascolta, io sono Nicola da Modena, ma sono del sud. Siccome penso che tu sia abbastanza intelligente, smentisci una volta per tutte che non ce l'hai col sud. Io lo capisco, una persona mediamente normale lo capisce. Ma perché dovrei avercela col sud? Che significato ha? Hai fatto tutta sta polemica, smentiscila una volta per tutte. Ma davvero, non c'è niente da smentire, è abbastanza evidente. Sei nella mia compagnia, quando vengo a casa a lavorare, in mezzo alla nebbia, quando è la bassa, eccetera, smentiscila. Ma non c'è bisogno di smentire, ma è chiaro che non ce l'ho col sud. In modo chiaro, perché lo sappiamo tutti che anche Trento, che la provincia autonoma, la manteniamo noi. Smentiamola, non è ma vero. Quello che è chiaro, quella è una vergogna, il fatto che noi diamo così tanti soldi alla provincia di Trento. Questo non c'è dubbio, che c'entra? Però io ovviamente non odio il sud, ma sono il primo a condannare gli sprechi che ci sono nel sud. È un certo modo di affrontare il rapporto con lo Stato che è malato, il rapporto con l'autorità che è malato. Qualche volta il sud mi dà l'impressione di essere un altro paese, questo è vero. Non che al nord non si violi la legge, però diciamo che al sud no. Ma basta vedere i dati dell'evasione fiscale, per esempio, no? Sì, però cioè, io lo capisco, però dico sfortunatamente, cioè, la tua gamma di ascoltatori, c'è cioè, quello che capisce mediamente, lo so che non te ne frega niente, quello, a me piace la chiarezza, a te si riconosce una cosa, la chiarezza, Cruciani non ce l'ha con sud, denuncia tanto gli sprechi o del nord quanto il sud quanto il centro. E così la chiudiamo sta polemica tra sud e nord che non ha senso. Chiudiamola, grazie. Non so se è arrivato anche a te. David? Sì, cosa? Non so se è arrivato anche a te. Cancelleria privata del divino Telma. Sì, ma l'ho messo come spamming, quindi non mi si apre. Aspetta. Invece te lo leggo io. Cancelleria privata del divino Telma, Roma, 10 gennaio 2014, comunicato stampa. Reduce dalla trionfale epifania divina al Pitti, ove oltre 200 fedeli lo hanno a lungo acclamato. No, veramente ridevano, io ho visto quel filmato, ridevano, lo pigliavano per il culo. Dicevano che è quel buffone, comunque. No, facevano finta di partecipare perché... Ma certo, ma come si fa coi matti, su? Il divino discuterà pubblicamente la sua sesta laurea terrena in metodologie filosofiche. Ma chi cazzo gliene dà tutte ste lauree al divino? E dove l'avrebbe presa poi questa qui? Mercoledì. Dello stato di Bumbù, forse. Mercoledì 15 gennaio 2014, ore 15 circa, presso il salone del Gran Consiglio dell'Università degli Studi di Genova, via Balbi 4, piano terra. Bisogna mandare qualcuno là, eh? La sesta laurea. Ma secondo te è vero che ha sei lauree? No, questo non. C'è talmente un degrado dell'università italiana che può anche essere. Ma ci sono i numeri dei professori. Relatore il chiarissimo professor Daniele Rolando. Rolando. Correlatore il chiarissimo professor Paolo Aldo Rossi. Ma secondo me è facile pigliare 8-6 lauree, perché uno si laurea in, che ne so, sociologia, no? Dopo bastano due esami per laurearsi, che ne so, in sociologia politica, in fracazzo dalle lettere. L'unica cosa che non penso che lui si presenti vestito in quel modo da circo. No, come no? Certo, altrimenti nel senso così, probabilmente chiamano la Neuro. Perché... Senti, no, ma che l'Euro, sono divertiti ovviamente. Tema della tesi: dei angeli e demoni nel pensiero di Agostino di Ippona. Ma certo che ci si laurea veramente in qualsiasi cosa in Italia, eh. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. Ci sono pure le info per l'ingresso libero. Ma dai, su. Ma di qualcosa, non ti scaldi nemmeno così stasera. Ma vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Emanuele da Milano. No, ma è un uomo pericoloso per se stesso. Dai, su, Emanuele da Milano. Pericoloso per allora. Sé. Sinceramente non sopporto più sta cosa che ogni volta domandate quando parlate dei gay, se guardi due gay che si baciano, secondo te cioè che fa, ti giri o no? Vabbè, ma è una cartina di tornasole quella, dai. Perché non, cioè io per dire non sono omofobo, ok? Però è logico che a me viene lo schifo a guardare due gay che si baciano, perché sono etero, cioè, ma come penso tutti, cioè, se è Parenzo, prendi Parenzo, no? Che lui, a quanto ho capito, io vi seguo da 4 anni. l'unica cosa che ho capito è che è uno che si fa le seghe. È l'unica cosa che ho capito. Che si fa? Lui, le seghe. Ma lei da dove sta parlando? Vuole parlare meglio? Vuole avvicinare quella bocca al microfono del telefono? Ah, ok, ok. Allora, dai, forza. Va sempre su YouPorn, ok. Ma chi perché va su YouPorn? Ma chi l'ha detto? Parento, ma chi lo sostiene? Questo lo dice lei. Lui con le chiedi bang, è un espertone. Cioè, allora, io dico, lui secondo lei, si vede i video, penso avrà anche lei, Cruciani, avrà visto magari, che ne so, nella vita dei video, no? Dei video porno. Beh, okay? Sì, certo, assolutamente. Allora... Ok, perfetto. Lei si va a vedere i video dei gay che si inculano a vicenda o si va a vedere magari una donna? Ma che c'entra, Emanuele? Ma che c'entra? Nel senso, è logico che se uno piace una donna e vede uomini che si baciano... gira perché prova disgusto. Ma io non provo affatto disgusto, lo prova lei disgusto, io non provo affatto disgusto. Vabbè, lei non lo prova, io lo provo e pretendo che non mi si dica che sono omofobo. Ma non è omofobo, prova disgusto, punto e basta. No, secondo me è un idiota, non è omofobo. Cioè, prova disgusto, non si capisce. Ma io non sarà lei, che vuol dire? Non ho capito. È un povero idiota semplicemente, ma non c'è nulla di grave. Ma perché idiota di cosa? Idiota perché sto parlando con lei e potrei fare 800.000 cose migliori. Beh, è lei che ha telefonato, Sì, no, infatti dico, forse sono idiota per quello, perché stiamo per farmi insultare da uno che non so cosa fa nella vita. Sto dicendo che il mio pensiero, lei avrà piacere. Ma lei sta con l'auricolare? Lei è con l'auricolare? No. E allora parli bene, altrimenti vai e viene, forza. Ok, allora io dico, secondo me Parento come dipende queste cose, no? Cioè, secondo me è abituato la sera, dopo cena, si affaccia alla finestra e cerca di guardare qualche gay che si bacia, qualche coppia di gay che si bacia, perché senza difendere un... Ma perché? Perché dovrebbe affacciare la finestra e guardare? No, io mi domando, se io dico domani mattina che a me mangiare broccolo bollito mi fa schifo, sì. Non è che mi viene, non mi viene quello che ha frutta e verdura all'angolo e mi fa, tu sei un razzista con i broccoli, cioè, non mi viene a dire quello. Allora perché? Vabbè, ma non so da dove chiama lei, via. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Oh, è tornato a parlare di noi anche l'amico Marin da Radio Padania. Perché ieri abbiamo invitato la sua amica, la sua amica Mistress, ve la ricordate tutti, Guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di accecarti. Fai vedere le tue braccia possenti. Ben pensanti, come dice la Katrina Selkis, me la fai mandare in onda, che poi quelli della Zanzara adesso se ne sono accorti della sua presenza. E senti qua. Ben pensante che sei solo di spensare paroline inutili. Taci. Figlia della libertà. Servi di Roma fuori. Ciao, buona serata, bestie. Ripensamenti. Barin su Virgì. Un'ultima polemica: i 10 euro per andare a vedere il triste filmetto anti-lombardo del compagno Virzì, piuttosto mi guardo un documentario su Brezhnev, scrive Matteo Salvini, e questo è l'ennesimo schiaffo per il Nord da parte di un regista che ha preso tanti soldi per denigrare una zona, la Brianza, bellissima, una zona laboriosa e una zona che, guarda caso, mantiene tutto il resto d'Italia. Vabbè, Varin, però io ho pure un po' difeso alcune cose che non tu, altri esponenti hanno detto su Virgì. Adesso mi fai cadere tutto, però, Onnipotente. E che? Ma chi Fauci è? Ma che ne so? Triste filmetto antilombardo. Avrà le sue idee, dice secondo me sulla borghesia, sul Nord, su Berlusconi, delle cose che secondo me non stanno né in cielo né in terra, però. Triste è quello che sento a Radio Padania, veramente. Padania bella e libera, guarda un rom. Francesco da Bergamo. Buonasera, Cruciani. Dimmi, caro. Una cosa sola volevo dire. Sì, dimmi. Io da stasera non sentirò più Radio 24, perché dopo aver sentito sì. l'ennesima difesa di chi? Chi attacca i gay. Sì. Questo signore che parla delle foto di Berlusconi, di robe veramente che non... Per carità. Però carità. Purtroppo stasera è l'ultima, siamo arrivati al top. Siamo arrivati. Ma cos'è che le provoca così disgusto? Che cosa? Per esempio, perché non è possibile continuare a attaccare. No, ma i gay, lasci perdere Berlusconi, non l'ho attaccato io, Zappato che ha descritto delle foto che aveva. Cioè, non si può dare spazio a chi? A prendere per il culo qualcuno che parla male dei gay. Ma lei lo sa che è circondato, da Froci? Lo so, ma lo so perché io faccio un lavoro dove ho molti omosessuali intorno a me. E che lavoro fa? Benissimo, ma sai qual è la cosa? Che lavoro fa? Che io faccio pitture, lavoro sono un artigiano, io lavoro molto vicino agli omosessuali. Ma sarà qual è il problema? Qual è il problema? Mi dica. Che quegli omosessuali con cui io lavoro non hanno nessun problema. Cioè questa è la cosa assurda, quando io parlo con loro non ha nessun problema di essere o di dire a me che sono dei gay o che sono omosessuali, è questo che mi fa imbestialire. Non me moleste moschito, vieni qua che ti frusto e ti sodomizzo. Non me moleste moschito, why don't you go. Francesco, non me moleste moschito. Dimmi caro. Volevo dire l'ultima cosa, cioè non è possibile che io non possa avere un pensiero diverso dal fatto che non possa essere gay. Ma chi ha detto che lei non può avere il pensiero diverso? Lei può avere tutti i pensieri che vuole. Ma è questo che me glielo sto chiedendo io a lei. Non deve. Ma lei può avere tutto il pensiero diverso? Io vorrei che non prevalesse il suo pensiero, ma certamente... Ripeto, io lavoro con degli omosessuali, ma non ho mai avuto questo sentore di che cosa? Questi si sentivano... sminuiti nei miei confronti. Ho sempre avuto dei rapporti perfetti, cioè, ma nessuno dice il contrario. Si sta discutendo di altre cose, di matrimonio, di adozione, eccetera. Sì, ma nel momento in cui uno vive la sua sessualità in maniera tranquilla, poi allora si può discutere di qualsiasi cosa. Quando incominciano a fare i cani arrabbiati che abbaiano, allora li perdono. Ma non so di che sta parlando. Francesco da Crotone, buonasera. Buonasera, grandissimo. Dimmi. E allora, e niente. E niente, hai chiamato tu. La Brianza, cazzo dice? Ma chi? Quest'ultimo signore che ha parlato, ma non ho chiamato per lui. Ho chiamato perché prima in macchina ho sentito che quel signorone ha detto che fascisti e massoni, che non so, non ho capito chi cazzo è quello che ha parlato, scusa. È un fotografo sardo, famoso, si chiama Zappato, quello che ha pubblicato. Ah sì, Zappato, ecco, quindi ho capito. Allora? Una faccia di cazzo. Perché? Cioè come cazzo fa a dire che ci sono fascisti e massoni? Ma che ne so io, è rimasto generico, fascisti e massoni. Perché parla d'occhio? Fascisti e massoni che si sono infiltrati nel Movimento 5 Stelle in Sardegna. Questo l'ho capito, il senso, anzi di senso non c'è, perché bravo. Secondo me fascisti. Ma poi non vuol dire niente. Quelli che hanno fondato l'Italia. Vabbè, dunque? Si parla di... dunque niente. Dunque tu sei un grande... Hai fatto parlare prima un Francesco da Bergamo. Sì. E ora hai fatto parlare Francesco da Crotone. Ma questo lo sappiamo. Italia, però, Francesco... una città di merda. Cos'è una città di merda? Crotone. Lo dici tu. Lo dici tu. No, ci hanno tolto la ferrovia, ci hanno tolto l'aeroporto. Non si può andare neanche col traghetto da nessuna parte. Ci hanno chiuso l'autostrada. Vabbè, Stefano da Torino. Perché vogliono far passare la Salerno-Reggio Calabria. Vabbè, lascia perdere la storia vecchia. Stefano da Torino, dai. Ah, Giuseppe. Dimmi. Ascolta, io ho chiamato perché... quando è aperta la trasmissione che dicevi di Cota, no? Che dopo 4 anni gli hanno abolito selezione. Sì, ma è stato lui il furbo che ha mandato avanti gli avvocati per 4 anni per far ritardare il più possibile. Alla fine ha fatto le campanelle, ma non gli sono funzionate. Alla fine gli hanno abolito lo stesso. E quindi adesso ha poco da lamentarsi. Ha fatto le irregolarità e quindi adesso è quello che... Ma Stefano, ormai lei si è fatto una canna? Parla in maniera strana, con la voce un po' impastata. No, è proprio la mia voce questa qua. Però scusi Stefano, quella avrà fatto i ricorsi perché qualcuno l'ha presentato, i ricorsi contro i ricorsi, è normale, anche lui sicuramente avrà allungato il brodo. L'assurdità è che se arrivi dopo 3 anni e mezzo, che sia più o meno simpatico Cota, che se arrivi dopo 3 anni e mezzo ad annullare le elezioni. Tre anni e mezzo. Automatica la giustizia qua si sa benissimo. Vabbè, appunto, invece bisognerebbe mettere un termine a queste cose. Cioè, uno dovrebbe decidere entro 6 mesi con ricontare i voti, le irregolarità, eccetera, eccetera. Poi, anche se spuntano delle cose come quelle che sono spuntate, che poi in realtà si tratta della certificazione di alcune firme, ma va benissimo, sono state presentate, hanno falsificato 17 delle 19 firme dei candidati, cioè quel signor giovine pare che le abbia scritte lui a mano o qualcuno per lui, insomma nessuno le ha messe davvero quelle firme per la presentazione delle candidature. Va bene, condannate quel giovane come è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, ma cosa c'entra, come dire, un governo che va avanti da 4 anni, bene o male, non interessa. Grazie. Ci crederai, caro Parenzo, questo è l'inno della Corea del Nord, direi che sono fissato ancora una volta, ma qui abbiamo con noi il presidente dell'associazione di amicizia tra Corea del Nord e Italia, Christian Pivetta, buonasera. Eccoci qua, buonasera. Come? Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Corea del Sud sarà? No, Corea del Nord. No, non Corea. No, hai sbagliato, non è possibile. No, è Corea del Nord, ti assicuro. Rassicuri Parenzo, lei ama... Repubblica Popolare Democratica di Corea. Vabbè, ma questo è uno scherzo, Pivetta, lei non ci crederà. Dai, hai sbagliato, è del Sud, cioè quella americana. Cioè, quella occidentale, quella dove si vive bene, dove si vive in libertà, o no? Guardi, quella dove si vive bene in libertà, oserei dire che quella del nord, visto che le persone non si suicidano come avviene nella Corea del Sud. Ma a parte che le persone si suicidano anche al nord, insomma. Sì, no. Le persone vengono fatte fuori con la pena di morte nella Corea del Nord, no? La pena di morte c'è in molti stati all'interno del mondo. Sì, lì però è una cosa. Piccolo particolare è che in quella del nord, diciamo, le pene vengono date in base, come dire, al guizzo del grande capo, senza nessun processo. Comunque, no, è stato... Allora, se lei si riferisce all'uccisione del signor Jang Song, no, io mi riferisco lo zio, parliamo dello zio. Ecco, esattamente. Questa persona è stata, ha tra l'altro anche confessato davanti un regolare tribunale. Un tribunale, come abbiamo noi i tribunali, ci sono tribunali anche nel paese. Non vorrà dire che i tribunali della Corea del Nord sono uguali a quelli che ci sono in Italia. Ci sono dei tribunali che funzionano sicuramente meglio, visto che qua non funzionano i tribunali. No, ma l'autonomia... Rilasciano i criminali in giro, per strada, da noi, di commettere, riuccidere nuovamente altre persone. In Corea queste cose non si fanno. Allora, in Corea il signore, se ci riferiamo al signor Jang, è stato condannato per dei crimini contro lo Stato. È stato eseguita una sentenza a morte. Ma lei ci crede a queste cose? In che cosa devo credere? No, crede per davvero che lui complottava contro lo Stato e dunque è giusto? Assolutamente, assolutamente. Per carità, sì, dunque è giusto condannarlo a morte? Ma è giusto, ci sono delle leggi e queste leggi, come in ogni Stato. Ma lei è un mostro. Come negli Stati Uniti vengono applicate. Ma è diverso, negli Stati Uniti non è che se uno complotta contro lei viene condannato. Negli Stati Uniti ci sono 5 persone, 5 cubani, lei non so se ha conoscenza della storia, che sono detenuti illegalmente all'interno di quel paese, che non hanno commesso nessun reato, sono condannati all'ergastolo. Negli Stati Uniti vengono applicate le sentenze di pena di morte, per cui... Scusi, signor Pivetta, lei è stato quante volte in Corea del Nord? Io ci sono stato 2 volte, lei? Io mai. E lei mai, quindi forse... Che fa di mestiere qui in Italia? Posso permettermi di avere una piccola visione leggermente superiore alla sua, forse. Dipende cosa ha visto in Corea del Nord. Se è stato portato in giro dagli sgherri del regime è una cosa. Guardi, si è anche abbastanza liberi di girare, di chiedere di andare ritiene opportuno andare. Scusi, ma lei che mestiere fa qua in Italia? Ma io lavoro nel settore delle ferrovie, nel settore e che ferroviario. Capostazione. Ah, abbiamo nelle ferrovie un fervente comunista nordcoreano. D'altra parte pure l'attuale amministratore delegato delle ferrovie era nel... Forse non è esattamente, non sono dipendente delle ferrovie, di un'altra compagnia della quale preferisco non fare il nome. Scusi, ma i capostazioni mica non devono essere per forza dipendenti delle ferrovie o no? No, beh, capistazioni ci sono anche ferrovie in concessione, ci sono reti metropolitane e quant'altro, quindi sono altri settori. Comunque, se volete... farmi tutte le domande che ritenete opportune. Certo, la Repubblica Popolare di Corea. Beh, siamo qui, ma siamo anche stupefatti. Siamo stupefatti, caro Parenzo, no, di questa cosa qua. Cioè, secondo lei c'è più libertà in Corea che in Italia, per esempio? Ma guardi, io farei questa domanda alle persone che in Italia non hanno un posto di lavoro, dai 10 milioni che non hanno un posto di lavoro, se sono liberi, prego, magari di mi faccia parlare, se sono liberi magari di mettersi su famiglia, di comprarsi una casa, ad esempio questa è una cosa che regolarmente avviene in Corea, visto che la casa viene data gratuitamente da parte dello Stato. O se no, se ci raffrontiamo ad altri paesi dove comunque i diritti umani, cosa sono i diritti umani ad esempio? Sì, se non certo. La possibilità di avere una casa, un lavoro, un'istruzione gratuita, un accesso gratuito alla scuola, alla sanità pubblica, eccetera. Quindi sì, questi sono i punti di partenza, poi su tutto il resto. Tutto il resto, certo. Cioè, la dittatura. Volevo capire. Sì, dimmi. Lei, gentile capostazione, anche simpatico, ha questa associazione. Sì. Dove sostanzialmente propaganda tutto quello che la Corea del Nord fa. No, ma io non propagando niente, guardi, io le spiego, io ho visitato la Corea nel 2009 per la prima volta per curiosità. Ma lei ha conosciuto il presidente, questo Kim Jong-un? No, io non ho vicinanze così. Ma scusi, ma perché lei ama la Corea del Nord? Scusi, allora, le stavo dicendo appunto... Ma qual è la cosa? Era comunista, quando era più giovane era comunista? No, le dico, io sono stato in Corea con la curiosità, pensando di trovare un paese grigio, nero, con la gente abbruttita, e pensavo di trovare un paese, da come lo dipinge la stampa qui da noi, terrificante, quando invece visitai quel paese mi resi conto che era un paese in cui la gente viveva tranquillamente bene, si divertiva più di quello che probabilmente ci divertiamo noi, cantano, ballano, mangiano e bevono, sono in uno stato tranquillo che nessuno conosce, ma dai, su. Più colorato di quello che, ripeto, viene dipinto in questo paese, e che continua ad essere, la stampa continua a dare una... Ma c'è la dittatura, c'è la dittatura! Mi dica perché c'è la dittatura, dai, su. Che dittatura c'è? Ma come, che dittatura c'è? Ci sono libere elezioni? C'è libera stampa? Lei lo sa che il 9 di maggio ci sono le elezioni in Corea del Nord. Chi si presenta a queste elezioni? Chi si presenta a queste? L'opposizione? L'opposizione? Ci sono 5 partiti politici in Corea del Nord. 5. Lei lo sa quali sono? Sì, se vuole le faccio l'elenco. Sì, sì. Ci sono 5 partiti politici. Sì. C'è un'assemblea popolare. C'è una guerra, guardi, c'è una battaglia elettorale in Corea del Nord che ne parlano tutti. La battaglia elettorale in Corea del Nord. Senta, la smetta di dire stupidaggini. È una dittatura comunista. Una delle poche che ancora è rimasta. Lei dal suo salotto, non avendo neanche mai messo un naso dentro quel paese. Ma che c'entra? Ma basta sapere alcuni indicatori che vengono comunicati da tutte le maggiori organizzazioni internazionali. Ma non dica stupidaggini. L'indicatore del 99,9% del grado di istruzione, perché non lo propaganda invece di dire esclusivamente. Ma che quello è tipico di tutte le dittature. Tipico. Tipico di tutte le dittature. Scusi, ma voglio dire, ma ben venga un sistema che mi permette di avere il 99% di istruzione. Ah, ben venga, certo. Ma sì, ragazzi, certo. Un attimo solo, Pivetta. Mi dica. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la Massimiliano da Roma. Sì, ciao. Ciao. Mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Ok. No, era per la cosa di Baudo. Io difendo Baudo anche perché ero presente, diciamo, all'accadimento. E quindi devo difendere il grande Baudo, perché comunque sono successe delle cose durante la trasmissione dei 150 anni d'Italia, ti ricordi, 2 anni fa. E Vespa, diciamo che era un po' latitante. E quindi capisco Baudo, che era veramente molto innervosito da quella situazione. Possiamo fare un esempio, diciamo che se Parenzo ha una trasmissione televisiva con te, lui sta tutti i giorni in studio, fa le prove, prepara, organizza, fa tutto quanto, poi arrivi tu 2 ore prima della diretta e gli cambi tutte le carte in tavola. Sì. Diciamo che uno poi si... Cioè, non ho capito, tu lavoravi con loro all'epoca? Sì. Sì, allora, cosa è successo? Diciamo che Baudo aveva preparato tutto il programma. Parliamo dei 150 anni. Sì, dei 150 anni, certo. Erano varie trasmissioni, varie serate. Sì. E niente, ti ho fatto l'esempio, insomma, non andiamo nei dettagli, però questo è quello che è successo, insomma. Cioè, praticamente Vespa tutto il giorno a lavorare, poi arriva la prima donna 3 ore prima della diretta e fa la prima donna. E questa cosa dello sputo di Bauda Don Acatten, uno degli autori di Porta a Porta, è in un momento di grande nervosismo e tensioni, come può capitare quando appunto ci sono situazioni un po' così. Ma ho capito, ma tu l'hai visto questo sputo? Sì, Sì, eravamo in studio, però sai cosa succede? Che quando c'è gente che litiga, diciamo che chi non fa parte di quella cosa si fa da parte. Insomma, però tu hai visto Baudo sputare addosso a Donna Catena? Sì. Ma non c'è. C'è stato un po' in maretta, insomma. Sì. E poi c'è stato questo sputo. Beh, certo, lo sputo era abbastanza arrabbiato, insomma. Lo sputo non è bello, però, No. Però era. Ma era uno sputo, diciamo, di che tipo? Vabbè, non ci sto il giochino dei. Ho capito, però. Di saliva. Era uno sputo di saliva addosso, ma. Non è che ci sono tipi di sputo. No, ma in faccia? No. Per terra, addosso? Distanti, sì, dispregiativo, diciamo, ecco, se vogliamo. Ah, uno fa così, e sputa addosso. Beh, però l'ha colpito. Credo di sì. Ha colpito, vabbè, ma tu che impressione ti ha fatto questa cosa? Cioè, era l'apice di una situazione. La colpa di chi è? Di Vespa? Tu mi fai capire che la colpa è di Vespa? Diciamo che magari se in quel periodo ci fosse stata una collaborazione migliore, non si arrivava a quello. Cioè, di Vespa con Baudo, cioè è Vespa quello che latitava, diciamo. Latitava durante queste trasmissioni. Durante le prove di queste trasmissioni. Durante le prove delle trasmissioni. Poi arrivi all'ultimo momento, fai la prima domanda. No, beh, è vero. Volevo anche dire una cosa su Cota, che ho sentito che prima tu dicevi su quella cosa delle firme. Sì. E in questo, perché non sono d'accordo con te. Sì. Cioè, nel senso che tu hai detto, vabbè, ma quella cosa, ok, qualcuno ha sbagliato su quella cosa delle firme e quindi adesso ormai questi governano. Però questi governano perché qualcuno ha fatto delle firme false. Sì, ma non erano le firme false, quelle là erano 17. Certo, quella lista lì, se uno va a vedere. C'era quella lista, magari Cota non era lì. A parte che non è vero, perché quei voti in teoria sono sempre voti di Cota, no? Cioè, sono sempre voti che appartengono a Cota. Cioè, non allora sono che serviva quella lista? Cioè. No, nel senso, quei voti lì avrebbero comunque scelto Cota come presidente. Ma lasciamo perdere questa roba qui. Sì, d'accordo. Cioè, hanno votato Cota e hanno votato anche quella, hanno votato quella lista, e di conseguenza hanno votato Cota. Ma il punto fondamentale è che io dico che queste cose qui vanno risolte subito. Cioè, sono d'accordo. Non si può dopo 3 anni e mezzo, quando c'è un governo. Capito, questo è il punto. Certo che ci sono delle irregolarità, hanno commesso delle cose vergognose. Uno non può firmare mentre è al posto di un'altra persona, questo è chiaro. Certo. Cioè, hanno fatto un falso. Ma sì, ma hanno preso a calci nel sedere, sono stati già condannati dalla magistratura. Cosa grave sono i 4 anni, questo sì, è perché... certo, però. A un certo punto la legislatura non si può interrompere, Florida, per queste cose. Ti ricordi qualcosa successo in Florida? Sì, ho capito, però. Hanno deciso subito là, però. Quasi sì, subito. Certo, infatti. Chiaro. Gira che ti rigira la giustizia, insomma, il problema. No, ma non è che la. Certo. Beh, la lentezza. La lentezza, certo. Ciao Massimiliano, ciao. Sì, ciao. C'è ancora qui l'ammiratore di Kim Jong-un. Ma aspetta, no. Prima della Corea lì, aspetta un attimo. Che c'è? Che succede? Perché c'è un'altra cosa che mi è venuta in mente. Ma la Lega, domando, perché poi dopo si arrabbiano tutti. Domando. La Lega riceve ancora il finanziamento pubblico per la radio, essendo radio di partito? Beh, certo, per forza, perché? No, domando. Di sì. Domando. Certo, Cruciani dice sì. Quindi il finanziamento pubblico arriva a questa radio di partito, giusto? Stai dicendo questo? Sì, allora. Beh. Quindi con i soldi pubblici noi stiamo pagando una signorina che dice di voler la dominatrice pagata con i soldi pubblici. Vabbè, ma che vuol dire? Uno poi invita chi vuole. Il problema è il finanziamento pubblico in generale, le testate che non va bene. Esattamente. Poi ognuno fa quello che vuole. Spiegare, siccome quella è una radio di partito che serve a fare propaganda. A cosa serve la mistress, dici te? A cosa serve la mistress? Questo è il punto. Vabbè, pagata questo... con i soldi miei, Pivetta. Ma io preferisco però pagare la mistress piuttosto che qualche politico. Senta, Pivetta, lei che è un ammiratore della Corea del Nord, che ci dice di parlare di cose serie, che le pare una cosa seria, una cosa del genere. Ma lei vorrebbe andare a vivere lì o no? Guardi, io ho presentato domanda ufficiale per andare lì un periodo. Ma quanti siete in questa associazione? Guardi, siamo diverse migliaia. Ma quale diverse? Ah, in tutto il mondo. In Italia quanti siete? In Italia non siamo in tanti, però è abbastanza. Quanti? 3-4? I picchiati in testa? Quanti siete i picchiati in testa? No, non siamo picchiati di testa. 10, è 15. Un paese normale come tanti altri paesi. Ma non è un paese normale! Per quale motivo? Ma per mille motivi, lei lo sa benissimo. Me lo dica per quale motivo? Lei lo sa benissimo. Va bene, il paese normale è nostro, dove lavoriamo fino a 70 anni, lo sa? Lei si vede a 70 anni a condurre ancora la radio? Ma speriamo. A 70 ciao, anni. A lunedì. Allora, ho detto io dal dottor Cruciani, mi devo aspettare.